Sai cos'è archeologia videoludica? Ecco cosa ho trovato su internet. Ma lo sai che archeologia videoludica è un podcast? Non so se ho capito bene. È un po' casto. Archeologia è un po' casto. Hai problemi di comprensione? Mi dispiace. Ok, io adesso inizio a registrare la trasmissione. Ti saluto. Ciao. Ciao. Sudore nel profumo dell'etica hacker, distanze chiuse, sigarette, tastiere, DOS, calzini, pizze, ipotizzare nuovi modelli di mercato, shareware, distribuzioni gratuite, donazioni volontarie, rompere l'etica industriale dell'acquisto a scatola chiusa. Il nuovo commercio è tastare con mano attraverso BBS, modem che ronzano dati, che scaricano demo e interi videogiochi. Fate circolare, sudore di programmatori, neg screen che s'aprono. Se vi è piaciuto, considerate la possibilità di fare una donazione. Se vi è piaciuto, vi prego, acquistate il mio gioco. Ma è la natura, l'essere umano, che se può prende, s'avvantaggia, gode dell'altrui sudore, senza pagare. Quindi, Scott Miller, programmatore, recensore di videogiochi, usare lo shareware per ficcare il marketing nel gameplay, nel game design. Gioca il primo episodio, il resto devi pagarlo. La chiama Apogee Software, la storia, ed è giusto così. Commander Keen, Monument of Mars, Duke Nukem, strappare da softdisk i due John, Carmack e Romero, farli abbracciare il modello Apogee, promettere ricchezza. Poi, Wolfenstein 3D. Only shareware. Una pistola ad 8 colpi, sparare in faccia ai nazisti per un anno e mezzo, generare $200,000 al mese. ID Software comprende il modello, abbandonare Apogee, correre a fare Doom, il 3D è il futuro, Apogee comprende, la realtà è il nostro gioco, diventa 3D Realms, in tre dimensioni reami di Duke Nukem, 3 milioni e mezzo di copie vendute, tutto il resto è vapore, un web marketing inghiottito dalla rete, dal passato ormai consolidato, che si muove in 3D Max Payne Bullet Time, forever. To the king, baby. E ancora una volta grazie a Luigi Marrone per la fantastica intro con la quale oramai per tradizione apriamo le nostre puntate di archeologia videoludica. Archeologia videoludica che è arrivata alla seconda puntata della quinta stagione. Come vedete, purtroppo stiamo andando un po' a rilento, perché preparare archeologia videoludica, insomma, ce ne vuole soprattutto perché insomma siamo un po' impegnati anche con Dietrologia Videoludica, che se avete visto insomma esce praticamente ogni due settimane, quindi stiamo dedicando insomma le nostre energie a quel progetto, senza trascurare ovviamente questo che rimane per noi ancora il progetto ammiraglia, insomma, quindi il nostro progetto insomma con il quale siamo partiti e con al quale siamo ancora profondamente affezionati. Con noi ancora una volta per parlare, poi vi diremo di che cosa, c'è Giuseppe Saso. Salve a tutti, colpo di tosse. Attenzione, questo... attenzione, perché sì, questo vi fa capire la dedizione con la quale noi ci approcciamo a questo amorevole compito del podcasting. E con me, con lo sguardo schifato a priori, c'è Marco Gualdi. Ciao, vi saluto, Peppe, tutto a posto? Sappi che poi dopo le guardie armate che sono alle tue spalle, finite la trasmissione, se ne andranno, ma la devi finire come d'acqua. Okay. Va bene. Non la sappiamo noi. Non l'ho capita, non la fate capire pure a me? No, tranquillo, è una cosa nostra. No, ok, è una cosa vostra. Tranquillo, bomba d'acqua. Bomba d'acqua! Comunque, prima di iniziare questa nuova puntata, è doveroso a questo punto fare un saluto a un amico, insomma, di archeologia videoludica, un amico nostro fondamentalmente, che non è che è morto, anzi, insomma, però è coma. Questa era Boris, che ha deciso di lasciare il progetto, ha deciso di lasciare il PN per una sua scelta personale che non ha niente a che fare con noi, quindi insomma non cominciate a fare speculazioni, hanno litigato, roba del genere. Una scelta che noi rispettiamo e condividiamo, nel senso, nel limite di quello che ovviamente sono le scelte di vita di ognuno di noi, anche se ci dispiace moltissimo. Parliamo ovviamente di Giuseppe Scaletta. Molti insomma ogni tanto lo chiedevano quando tornerà il professor Jones. Il professor Jones per ora non torna, perché così ha deciso. È un peccato per noi, perché oltre appunto ad essere un amico, è colui con il quale abbiamo fondato e ideato questa trasmissione, che ha dato poi il via IPN, quindi insomma diciamo che è uno di noi dalla prima ora, insomma, quindi è doveroso da parte nostra dargli il nostro saluto affettuoso, sempre ricordandogli che questa casa è sempre aperta, questa casa spietta a te. Questa parte del caso non è un albergo. Non è albergo, anche quindi so, salutiamo il nostro Giuseppe Scaletta, che rimarrà per noi sempre il professor Jones, e quando vorrà, insomma. Marco, vuoi dire qualcosa anche tu? Sì, che, insomma, abbiamo iniziato insieme questo cammino, anche tu hai iniziato insieme a lui. Quindi... Sì, quella palla di pietra alla fine è riuscita a prendere. Quella che gli correva sempre dietro, è riuscito a prendere. Questa cosa purtroppo ci ha lasciati un po' così. Adesso mi sento senza la mia nemesi. So, adesso chi è che manda nelle fogne? Potresti. Tu, Sasso, ci vai nelle fogne? No, mi spiace. No. Santilio, cagionevole di salute. Vediamo con Santilio. Santilio, dai, magari Santilio. Lui entra nelle fogne, secondo me ci sta il figlio. Sì, sì, perché Santilio è bello scattante. Io non l'ho visto ancora, no. Forse lo incontriamo presto a Bologna per la. È uno che parla ai topi. Terza tappa. E si fa rispettare. E parla ai topi, che cosa brutta. Santilio, Gianluca, fogne, non l'ho ascoltato. Nelle fogne bisogna saper parlare ai topi. Bene, e in realtà poi alla fine è un giorno in cui salutiamo, diamo un saluto a un grande vecchio amico, ma allo stesso tempo facciamo un saluto di bentornato a un altro grande amico, insomma, di Italian Podcast Network e di archeologia videoludica, perché lo scoprirete dopo. Nel frattempo, a questo punto, io entrerei già direttamente a piedi uniti nel bar, che si sta facendo tardi. Si è fatta una volta, e facciamo dell'intro dei 40 minuti, mo già tardi. Barnett College. Allora, il titolo di questo episodio, Marco, lo vuoi dire tu il titolo di questo episodio? Anche se spetterebbe a Peppe, perché Peppe l'ha inventato questo titolo, pensa? Cioè, oddio. Aspetta, un secondo, mettiamo i puntini sulla I. Bertoni. Peppe, no. Bertoni non c'entra. Bertoni no. Non c'entra, e allora è un bel titolo. È un buon titolo già in partenza. È bello. Un rimpallo, una partita a tennis tra me e Peppe. Perché io, sì. Lui dava gli spunti, io scrivevo una cosa, poi la scrivevo male. Lui diceva no, così. Infatti, poi mi sono arrabbiato e l'ho cancellata proprio. Ho lasciato quello mio. L'ha levato, esatto. Perché io poi non so che avevo scritto a un certo punto. No, era sempre la terza dimensione centrale. Perché appunto parleremo anche di 3D, però era incompleta secondo me, ecco perché. E il titolo invece originale è l'apogeo della terza dimensione, che già il titolo, ecco, andrebbe spiegato, Peppe, così introduciamo un po' la questione. Esatto, allora, il titolo innanzitutto è uno dei pochi titoli che riesce a indicare chiaramente le due realtà di cui andremo a parlare stasera, che poi in realtà sono, scusate il gioco di parole, una sola, ossia l'Apogee Software, che poi diventerà 3D Realms come la conosciamo oggi. Uh-huh. E quindi appunto ci stava nel titolo il riferimento a entrambe. Questo perché ho innanzitutto proposto, ho ideato questa puntata perché circa un mesetto fa la 3D Realms, che ormai è un publisher secondario, ha ripubblicato gran parte dei suoi giochi nel suo catalogo digitale sul sito 3drealms.com, che includono i grandi classici della di quando era conosciuta come Apogee, appunto, ed erano tutti quei videogiochi che hanno spopolato su personal computer dalla metà degli anni 80 fino al 2000. E diciamo poi, perché siamo andati un po' avanti ancora una volta, diciamo, in quello che consideriamo archeologia videoludica, però diciamo, ecco, uno ha detto grandi classici, ma che classici, cioè giochi che hanno fatto la storia del videogioco. Questi hanno fatto la storia del videogioco e la storia del business del videogioco, dell'industria, di questi industri soprattutto. Perché, come vedremo, per distribuirli, Scott Miller, il fondatore di Apogee Software, si inventò un particolare modello di business che ha dato anche là ad alcune forme di distribuzione che sono evolute, diciamo, in quelle odierne. Ecco. Forme di distribuzione, poi dopo ne parliamo, che... Mm-hmm. Di cui io sentivo parlare nelle riviste, dice: ah, questa è distribuito così, è distribuito come se tutti sapessimo. In realtà veramente eravamo un po' agli albori, no, di quello che era il meccanismo della distribuzione, che oggi è una questione normale, anzi oggi ancora si discute, ma è meglio la distribuzione retail o quella digitale? Invece c'era un tempo la carta, in cui io voglio la carta, i cartoni e la plastica. Comunque, scusa Peppe, che io intanto faccio le mie digressioni, insomma. Sì, no, va benissimo. Allora, a questo punto, direi, prima di anche di spiegare, anzi di lasciare al buon Roberto la parte accademica su questa distribuzione e quindi di introdurla, innanzitutto partirei un po' da prima che esistesse. L'Apogee Software nasce da una sola persona, come in realtà, un tale Scott Miller, che di classe 60, anni 60, era un australiano, era nato in Florida, però viveva e lavorava in Australia. Inizialmente, guarda caso, come giornalista freelancer. Tra parentesi, tra i suoi lavori ricordiamo che agli esordi scriveva anche recensioni pure di videogiochi per i giornali locali. La cosa particolare è che lui si buttò poi sin da subito, per arrotondare anche per passione, nel 1975 a scrivere, appunto, a programmare videogiochi. E in quel periodo, appunto negli anni, a metà degli anni 70, lui creava giochi per l'ambiente DOS. E la cosa particolare è che questi giochi, che ricordiamo essere alcuni erano tipo dei semplici quiz, altri dei come appunto computer quiz, astronomy quiz o basic quiz, cioè pensate, un quiz sul linguaggio di programmazione basic, e altri erano dei semplici avventure testuali come Beyond the Titanic oppure Supernova. Però la cosa particolare è la maniera con cui lui le voleva giustamente distribuire, essendo un pioniere di quell'epoca e non avendo alle spalle un capitale per la distribuzione, quindi per il packaging, il creare X copie del gioco e anche gli accordi con eventuali catene o negozi che potevano vendere i suoi software, ovviamente fece circolare liberamente nelle BBS, che ricordiamo essere l'antesignano di internet, le bulletin board system. Cos'è, che Marco non ci ha mai avuto esperienze con le BBS, vero? Cos'è la BBS? Ecco, quindi non c'è. È come se io sulla Atari non c'avevi il modem. Non c'avevo. Esatto. No. Soltanto che c'è un telefono a casa, figuriamo se è morto. Erano queste banche dati dove appunto si trovava, vabbè, a parte anche veri e propri gruppi di discussione, quindi un po' come, cioè comprendevano sia la parte che so di forum, dove tu potevi appunto pubblicare, postare dei messaggi e c'erano dei thread, potevi ovviamente chattare con gli utenti connessi a quella BBS, e solitamente c'era una grossa sezione dedicata appunto al software che ciascuno poteva uploadare o anche scaricarsi dalla BBS a cui era connesso. Tutto faccio la grande digressione che io ho ai tempi col modem 9006 baud di mio padre, ero fissato, se vi ricordate c'era una famosissima BBS italiana che era Ultimo Impero, non so se ve la ricordate. Sì, non me lo ricordo, però che veniva pubblicizzata pure su K. Sì, me la ricordo, però non mi ricordo, non riesco ad associarla bene. Mi ricordo, vabbè, il nome me lo ricordo sicuramente. Vabbè, comunque, sarà comunque questo argomento eventuale di qualche altra puntata. Comunque, torniamo a noi. E questi giochi che lui distribuiva erano innanzitutto giochi completi, ed erano appunto distribuiti a titolo gratuito. L'unica cosa particolare che lui metteva nelle schermate introduttive era una forma, diciamo, che diceva, che più o meno recava scritto: se il gioco ti è piaciuto, fammi una donazione di 10 euro, tipo mandandomi un assegno, eccetera. Considerate che era un antesignano, perché esatto, lui chiedeva gli euro quando ancora non c'erano, perché era stupendo. Scusa, euro? I dollari a questo indirizzo postale, a questa casella postale. E ovviamente potete immaginare che questo suo messaggio solitamente cadde nel vuoto, infatti ricevette ben poche donazioni. Allora Miller pensò di ingegnarsi in qualche altra maniera, perché comunque credeva in questa neonata industry. Per fare ciò, allora, il suo prossimo gioco decise di pubblicarlo con contenuti parziali, cioè non tutto il gioco, ma solo alcuni livelli. E questo gioco in particolare venne che lui pubblicò era Kingdom of Crows, che non so se avete mai giocato. No, però qui nasce la grande invenzione, la grande intuizione. Vabbè, tanto per dirla, perché se la cercate su YouTube vi farete quattro risate, perché mi piace comunque parlarne. Era una specie di mezzo puzzle game, ma la cosa particolare di sto gioco è che utilizzava la grafica ANSI del DOS. Cioè, vi ricordate tutti quei caratteri particolari come le faccine sorridenti, sì, i bastoncini, queste cose qua? Utilizzava questa grafica, perché ovviamente lui era un programmatore, non è che aveva chissà che capacità artistiche, e soprattutto per quell'epoca, insomma, non è che c'erano tutte queste schede grafiche potenti all'epoca. Questo gioco appunto che lui rilasciò recava il messaggio, anche ovviamente nel titolo, che si trattava di un episodio di 7 in particolare, proprio per questa serie. E l'utente, il giocatore che insomma avesse finito tutti i livelli e voleva, insomma, ne voleva ancora, doveva sborsare una certa quantità di soldi, inviandoglieli sempre appunto per via postale al suo indirizzo. Nasce così il concetto di shareware, che questa, e poi ti faccio lanciare, questa è un'assurdità, perché se voi ci pensate oggi qui siamo veramente agli albori del digital delivery, qua proprio dalla distribuzione digitale, dove però tu vai lì con la tua carta di credito, no, era digital. Secondo me glieli portava a casa. Il problema era questo, cioè nel senso il fatto del pagamento, che oggi è tutto molto istantaneo, no? Tu immagini, io inizio a giocare un gioco, arrivo al livello dove poi dopo si blocca e poi si sente... il gioco mi dice: se vuoi continuare mi dammi i soldi. Chi è? So io, se non prendi i soldi. No, quello spediva l'assegno, doveva aspettare che l'assegno arrivava, che quello lo incazzava e che gli spediva il floppy, no, vabbè, no, lì oramai lui già era popolare, cioè da quel punto di vista già c'era una certa popolarità, quindi poi per spedirgli l'assegno significa che c'era pure l'indirizzo. È vero che in America c'era la casella postale, i PO Box, esatto. Vai Peppe, scusa. C'è ovviamente da considerare che poi anche delle problematiche associate, che poi insomma vedremo anche con tutti i vari prodotti di Apogee, associate al fatto che appunto tu per poterlo comprare dovevi fondamentalmente stare in America se lo volevi subito, perché poi quando poi arrivavamo da noi o avevi degli eventuali distributori italiani, se esistevano, non che io ricordi, i negozi, o addirittura, cioè, oppure insomma dovevi passare per la pirateria, perché altrimenti te immagini da altri paesi lì fuori del suolo americano andare a mandare questo assegno, aspettare che arrivi, poi aspettare quello ti rimandi tutte le cose. Comunque questo qua è stato un successo anche per lui, per certi versi inaspettato, ma che siccome lui appunto vide che a partire da quando lasciò Kingdom of Crows la sua popolarità andò via via aumentando, allora capì che quel modello di business funzionava. E proprio per è proprio a causa di questo, e soprattutto vedendo che continuando a rilasciare tanti titoli con questo modello di business, lui riusciva a percepire una quantità tale che questa specie di sua seconda attività gli permetteva di incassare al mese più di quanto prendeva come giornalista freelancer. Quindi lui pensò di ovviamente espandersi. E nel far ciò, lui nel 1990 va a chiamare un suo. Fonda una vera e propria software house, che è l'Apogee Software, e per far ciò chiama un suo vecchio conoscente, che è un tale George Broussard, o Broussard, non so se. Penso che sia francese. E questo suo vecchio quasi conoscente. Un po' clochard. Sì. Non se ne frega niente. No, è importante niente. Anche perché George Broussard è uno delle menti dietro, uno dei papà di Duke Nukem. Che quindi insomma stava a parlare di Duke Nukem. Esatto. È un gioco che è finito male, però quando è iniziato era figo. Non so. Però il problema è sempre alla fine, poi. Ovviamente nel frattempo la Apogee ha continuato a sfornare tutta una serie di giochi, tanto per citarne la cosa particolare di questi giochi che andrò via via mettendo, è che in realtà hanno una connotazione particolare, perché oltre al discorso appunto di essere giochi episodici, dove appunto veniva rilasciato solo la prima parte, che comunque solitamente aveva tanti livelli, non era un assimilabile a una demo della durata di 5 minuti. Però la cosa particolare è che se voi tipo andate a cercare, ve ne snoccio alcuni, appunto lo stesso, il primissimo Duke Nukem, Cosmos Cosmic Adventure, Bioman Ace, Monster Bash, Realm of Chaos, notate che sono tutti fondamentalmente dei platform bidimensionali. Questo perché? Perché Apogee fu uno dei primi che dei primi sviluppatori che notò che mancavano nel mercato anche PC veri e propri platform sul genere di Super Mario, no? Questo diciamo era un territorio ancora molto più inesplorato come genere su personal computer, anche perché poi ricordiamo che li giocavamo con la tastiera, non è che no, ma non solo i PC ci hanno avuto per molti anni poi anche dei limiti tecnici pure sul loading, insomma, quindi vabbè, c'erano proprio dei problemi oggettivi. Hai detto infatti la parola magica, lo scrolling, perché i giochi Apogee erano anche caratterizzati, appunto l'esempio più grande a cui andrò a parare è ovviamente Commander Keen, con la sua saga di ben, pure in quel caso, 7 capitoli, 7 o 5 capitoli, ora non ricordo benissimo, sono la bellezza di 1, 2, 3, 4, 4 capitoli. La cosa bella è che appunto erano comunque utilizzavano uno scrolling molto fluido. Perché? Perché nel cercare altri esponenti del possibili che diciamo, aderissero a questo alla Poggi, che nel frattempo oltre ad essere sviluppatore cominciava pure proprio alcuni giochi a pubblicarli, cioè non venivano creati in house, ma lui permetteva, cosa anche molto rara all'epoca, che chi diciamo entrava sotto l'ala protettrice di Apogee col suo software, col suo gioco, ne mantenesse anche una volta entrato i diritti. Cosa che invece oggi, come sappiamo, tipo molte software house, tipo Ubisoft, EA, una volta che sei stato acquisito, poi le IP sono anche di proprietà del publisher. Sì, spesso e volentieri, non sempre, ma spesso e volentieri sì. Quindi insomma erano insomma, abbastanza avanti, buoni avanti ancora in quei tempi. Io, anche se faccio sì. archeologia della videoludica da anni, te devo dire la verità sì. che Commander Keen non lo conoscevo. Non ci ho mai giocato e non l'avevo manco mai visto. Strano, lo so, lo conoscevo di fama chiaramente, perché poi conoscendo un po' la storia delle software house va bene. Però lo sto vedendo, insomma. Ma Commander Keen, diciamo innanzitutto perché, tutto che cos'è? È ovviamente un platform che soprattutto se guardi è sfrutta come scheda grafica la EGA, perché è 16 colori, la palette è classico, insomma, ha una map, è notevolmente ispirato, e questo è una cosa molto, un retroscena molto, molto gustoso alla serie anche Super Mario. Tant'è che infatti, in particolare Super Mario Bros. 3, perché se guardi c'hai tanto di mappa esplorabile, e poi una volta che tu entri in un'area c'è la vera e propria sezione platform sì, esatto. Sì. Ovviamente a differenza di Mario qua puoi anche sparare, se guardi, ci sono anche una serie di enigmi che ogni Mario tanto è un buonista del cazzo, esatto. Diciamo così, mentre che anche tecnicamente, tecnicamente perché Commander Keen è il primo gioco delle new entry che in qualche maniera avevano adocchiato Scott e George Broussard. Ossia, loro avevano visto che c'erano alcuni tizi di una certa soft disk che erano abbastanza talentuosi. Loro li conoscevano perché questi della soft disk avevano prodotto una serie di giochi basata su una loro icona, sul loro personaggio, che era Dangerous Dave. E questi tizi erano, insomma, se la cavavano, ed erano anche abbastanza paranoici, questo tant'è che infatti loro per essere contattati insomma vagliavano via via le varie lettere anche di fan eccetera, prima di mettere in contatto fisicamente, che so, i fan, fare rispondere, che so, il programmatore alla lettera del fan, tant'è che infatti lo stesso Miller scrisse tipo quattro lettere diverse, spacciandosi per quattro persone pur di entrare in contatto con uno di questi programmatori. Loro non se ne accorsero, quelli della soft disk all'inizio, ma nonostante poi dopo videro la cosa strana che tutte riportavano lo stesso indirizzo. Ah, ma forse gli è venuto in mente, dicevo, ma sì. Questa gente abita insieme, ma strano. Tutti questi che abbiano tutti dentro la stessa casa. Ma la cosa particolare è che chi erano i tizi che lavoravano gli sviluppatori che lavoravano alla soft disk erano John Carmack, John Romero, Adrian Carmack e Tom Hall. Ossia i membri fondatori di quella che diverrà la ID Software. Quindi una volta che lui entrò in contatto con questi, insomma, gli si aprì appunto un vero e proprio mondo, perché comunque questi erano abbastanza bravi, tant'è che quel Dangerous Dave, se non sbaglio Carmack, creò il prototipo anche di Commander Keen, era una demo che lui, perché Carmack voleva assolutamente convincere Nintendo a portare Super Mario per PC, e allora creò una specie di pseudo demo che ricreava il primo livello di Super Mario Bros, mi pare 3, però senza lo sprite di Mario ma con quello appunto di Dangerous Dave, e veniva chiamato questo titolo Dangerous Dave in Copyright Infringement. Ovviamente Nintendo non se lo cagò completamente, però siccome lui aveva troppa lungimiranza, diciamo, no, no, in questa demo però era molto fluida per girare appunto su un PC con scheda grafica ECA, perché lui era riuscito a creare un motore grafico a scrolling fluido. E allora, visto che Apogee nel frattempo appunto, aveva visto delle potenzialità, gli commissionò un gioco e nacque così Commander Keen, il primo capitolo di Commander Keen, che era Marrude Invasion of the Vorticons, che, questo qua viene suddiviso come poi nelle varie serie in tre sottocapitoli, di cui il primo Marrude on Mars, cioè naufragato su Marte, è il primo rilasciato sempre con la formula dello shareware. Invece Monument of Mars, Monument of Mars era un altro platform particolare, che fu uno dei primissimi che introdusse la cosa particolare di non avere un numero limitato di vite, quello che poi diciamo ormai troviamo in tutti quei giochi platform molto difficili, tipo Super Meat Boy, se è presente, sì, dove sì, insomma è trial and error all'infinito. Monument of Mars, se non sbaglio, non era, aspetta che devo guardare perché non mi è un po' bruttino, diciamo, è molto brutto, sì, ha un'ambientazione appunto spaziale dove sei questa specie di astronauta, ovviamente essendo Marte, se guardi la palette grafica è tutta sul rosso, esatto. Esatto, a me non so perché mi manda delle vibrazioni tipo dei giochi sempre appunto, d'altronde essendo platform, sulla serie anche dei Jet Set Willy, perché lo vedi che c'hai un sacco di nemici che cominciano a spostarsi con dei pattern definiti e tu devi comunque evitarli. Sì, però essendo lo scenario molto schematico, se tu lo vedi ovviamente sì, sono le curve dritte, cioè nel senso le salite dritte, proprio tipo... Sì. Sa di gioco in basic per certi versi, un po' c'ha sto sapore un po' così, forse anche perché il fatto che è molto monocromatico, diciamo così, no? Però sì, sì, però sì, esteticamente non è un granché, però guardarlo ispira comunque, proprio... Comunque Monument of Mars non è realizzato da Apogee come sviluppatore, ma è ma in questo caso Apogee fa solo da publisher, okay, perché lo sviluppatore era Scenario Software, che comunque oltre a Monument of Mars sono gli stessi che hanno fatto anche Arctic Adventures e Fallout Tomb. Infatti se guardi più o meno il gioco è lo stesso, cambia solo l'ambientazione, tipo Fallout Tomb e invece sullo stile di Indiana Jones, però sempre con questi nemici e il pupino che deve evitarli, no? Sì, sì. E, dunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, quindi per quanto riguarda appunto... E quindi, insomma, Apogee intravede delle potenzialità in queste nuove reclute. E la cosa particolare è che questi qua poi nel... aspetta che vedo l'anno che non me lo ricordo. Mannaggia. Se ne, insomma, questi Romero, Carmack, eccetera, se ne escono ovviamente con un gioco che abbiamo trattato anche in altri episodi, esattamente nel 1992 gli propongono questo gioco che viene appunto rilasciato sotto la Apogee Software, anche se lo sviluppatore era appunto la ID Software che avevano fondato, che è Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D, che ovviamente ricordiamo per essere uno dei primissimi, se non il primo FPS che praticamente è quello a cui dobbiamo dare la colpa di Call of Duty. Esatto. Beh, gli dobbiamo dare la colpa di tanta roba, allora, se per questo, se proprio vogliamo considerare la colpa. Io mi fermo un secondo qua, proprio sì? Perché Wolfenstein 3D, allora, il definirlo il primo, lo possiamo definire il primo FPS in 3D, diciamo, sì, così. Poi sul discorso il primo FPS sdoganato a livello diciamo mondiale, perché poi in realtà comunque dei prototipi erano stati creati, però erano cioè prototipi ovviamente creati da altre case con movimenti, diciamo, con un gameplay analogo e una struttura sempre analoga in prima persona, però non erano mai stati sdoganati appunto a tutta un'utenza così vasta, no? Sì, anche poi dopo un giorno su questa questione dell'evoluzione dei giochi in 3D penso ci faremo veramente un puntatone, anche perché vediamo anche l'evoluzione dei motori, di come poi vengono costruiti, anche perché ovviamente partiamo anche dai non FPS, ovviamente già c'erano comunque anche su Commodore 64, c'erano anche giochi che avevano la soggettiva in 3D, però questo è un discorso un po' particolare, ma a prescindere da questo Wolfenstein 3D però è veramente stato il gioco che ha spaccato tutto, che poi oggi a guardarlo un po' va bene, lo sappiamo, no? Nel senso, ci fa anche un po' sorridere se voi ci pensate, perché se lo andiamo un attimo a descrivere, l'ambientazione, cioè tutto questo scenario che è molto schematico, perché ovviamente è un grosso dungeon, praticamente tutti i livelli sono praticamente diversi dungeon, tutti labirinti, esatto, tutti un po' labirintosi in 3D, anche se poi anche qui sul concetto del reale 3D è un discorso che perché tutti gli oggetti, cioè tutti gli oggetti scenici in realtà sono bidimensionali, esatto. Ma in realtà anche il modo in cui il motore grafico riproduce, insomma, la tridimensionalità in realtà è un'emulazione, cioè nel senso è comunque tutto un discorso, appunto ho detto ci torneremo su una puntata specifica, però quando il giorno venne l'amico a casa e ti disse metti questo, perché questo veramente, io mi ricordo c'avevo il 386 e per giocarlo veramente fluido dovetti anche, perché c'erano le opzioni anche all'epoca, dove praticamente se tu non avevi il computer super performante per giocarlo proprio bene bene bene e lo volevi giocare con i dettagli, potevi o ridurre i dettagli grafici, quindi praticamente anche ridurre le texture, che già erano quello che erano, perché erano proprio quei pixeloni giganteschi, oppure potevi ridurre la dimensione dello schermo giocabile. E quindi a quel punto tu decidevi in che maniera, però questo come rovinarti gli occhi, insomma, decidevi con modo o nell'altro. No, però è stato un gioco che spaccava, cioè vabbè, noi poi abbiamo visto anche l'evoluzione, abbiamo fatto la puntata su Doom, per carità di Dio, però cioè Wolfenstein 3D è stato il primo che ti ha veramente immerso in un modo di giocare anche completamente diverso, perché come diceva Giuseppe, lo scrive cioè nella scaletta. Questi sono stati i due giochi, questo e Duke Nukem, che hanno portato la rivoluzione, e hanno portato una rivoluzione non solo graficamente, ma proprio anche perché, diciamo, prima di questo pochissimi erano i giochi che sfruttavano la grafica in VGA 256 colori, perché proprio tu anche volendolo ridurre all'interno del solo catalogo dell'Apogee prima dell'uscita di Wolfenstein 3D, tutti gli altri titoli erano sempre con EGA, CGA, ed erano comunque dei giochi bidimensionali, no? Sì, se noi vogliamo proprio dell'epoca pensare ai 256 colori, ci viene in mente l'avventura grafica. E poi c'erano i fondali pre-renderizzati, statici, che stavano lì, esatto. E basta. Cioè, nel senso... Ed è anche uno dei primissimi giochi. Ricordiamo che oltre appunto alla scalabilità, come ha detto bene Simone, della risoluzione, no? Affinché diciamo uno poteva avere giocare in maniera fluida, non muoversi non a scatti, perché magari non ce la faceva a risoluzioni maggiori, perché non era magari il PC di ultima generazione per l'epoca, aveva anche il supporto alle schede audio, quindi cioè se eri anche uno tra quei pochi fortunati che avevano pure, che so, montavo un Adlib, una Disney Sound Source, una Sound Blaster, potevi anche sentire delle musiche oltre al semplice cicalino dello speaker del PC, no? Sì. Anche se poi c'era una sola musica, se ti ricordi, proprio in Wolfenstein 3D, che era il tema principale, che veniva ripetuto all'infinito, però potevi anche magari sentire pure, che so, le voci dei tedeschi, no? Mentre schiattavano lo sparo, i cani che abbaiavano, vabbè, c'era già un buon campionario di suoni campionati, ed è stato un gran bel giro, ho giocato una marea, ed è stato anche il gioco con il quale sono stato introdotto a un certo tipo di ironia. Ah, pensavo al nazismo, no. All'ironia, sono contento. No, ironia quella becera, molto dark, becera, molto becera, anche questa visione dei nazisti cyberpunk, insomma, che veramente poi erano pure inquietanti, sai? Se più andavi avanti più c'erano sti boss che erano veramente raccapriccianti, che avevano ovviamente, che ne so, le mitragliatrici apposta le braccia e cose del genere, fino ovviamente al boss finale, Insomma, non facciamo spoiler, no, no, però gioco. Il boss finale dipende di quale titolo, perché ricordiamo quando uscì Wolfenstein 3D, sempre con la solita formula dello shareware, aveva qualcosa come inizialmente solo 3 episodi, poi in realtà l'ho espanso, se ti ricordi, aggiungendone altri 3, quindi in totale c'erano altri 5 che sempre sganciando moneta sonante potevi giocarti. Alla fine del primo, vabbè, è facile capire chi tu possa incontrare per ultimo, certo, no, no, ma boss... poi era sì, vabbè, poi ovviamente era la storia di questo che si introduce insomma all'interno di questo castello nazista, poi dopo ovviamente sono state anche altre reiterazioni e molti ancora oggi non hanno capito qual è la differenza tra, che so, Wolfenstein e Spear of Destiny, per dirti, insomma, no? Quindi cioè, nel senso, poi c'erano gli episodi che avevano ma anche il concetto di episodi già era una cosa abbastanza avveniristica e questo come appunto insomma veniva distribuito sempre anche con questa idea insomma del ti do il gioco in ti do il gioco gratis fino a un certo punto, è un po' come diciamo lo spacciatore che ti dà la droga, esatto, ti fa abituare alla droga e poi la voce adesso ma di comprare, no, però era geniale, ma non soltanto, in realtà se tu prendevi solo la versione non completa era già un bel po' del gioco. Sì, io la giocai ad esempio sul 95 l'ho giocata, quindi qualche anno dopo. Beh, qualche su PC dell'ufficio contabilità del ministero della difesa. No, perché molti giochi dell'Apogee, incluso Wolfenstein 3D, era almeno qua in Italia, a me è capitato appunto anche con mio padre in banca di trovarli negli uffici pure pubblici, no? Magari nascosti in miliardi di sottodirectory per evitare di essere insomma sgamati. Io ti devo però dire la verità, da quando soprattutto nell'epoca DOS, quindi dai 286, 386 e 486, dove andavi non c'era un computer che non c'aveva i giochi dentro, cioè chiaramente già per l'abitudine che ci avevamo in Italia e per il fatto che comunque, e poi questi in particolare perché alla fine cioè, non avevi manco rubato niente, c'hai Wolfenstein, no, ma poi anche questi, diciamo, se non eri così cioè, se eri più sfortunato e non c'avevi l'amico che te l'ha fatto conoscere o il collega del babbo, diciamo, che ci giocava in ufficio, comunque se ti ricordi anche lo stesso Wolfenstein 3D come anche altri giochi della stessa Apogee, sempre nella versione shareware, quindi quella limitata, venivano comunque distribuiti anche nelle riviste. Ti ricordi tutti i vari PC Magazine, tutte queste testate che avevano ormai cominciavano a spuntare in edicola con in allegato un floppy con diversi sia giochi che utility. No, infatti era proprio su tipo The Games Machine, no? Che io leggevo scritto, diciamo, questo gioco distribuito in shareware, capito? Esatto. E tutti lo dicevano come se cazzo, un shareware, no? Ma che vuol dire? No, però tu non si può da dire che vuol dire perché dovevi fare quello che sapeva, capisci? No? Quindi poi dopo, piano piano negli anni, ho capito. Io direi che facciamo? Facciamo un sompo da Bertoni oppure vuoi andare avanti e poi dopo magari lo lanci tu? No, possiamo a questo punto chiamare in aiuto il nostro soccorso il buon Roberto per illustrarci effettivamente che cos'è la pratica dello shareware. Esatto, lo spieghiamo anche dal punto di vista terminologico, perché in realtà appunto io ho detto, cioè all'età nostra, cioè quando leggevamo nelle riviste tutti dicevano distribuire il shareware, però poi a oggi ancora molti hanno questo dubbio, che cazzo vuol dire, e sentiamoci un attimo Roberto. Amici archeologia videoludica, buongiorno, buonasera e buonanotte. Ennesima introduzione roboante per introdurre un mio nuovo piccolo spazio, in attesa chiaramente di poter essere ancora fra voi in maniera più presente e continuativa. Come ben sapete, infatti, fra polverosi archivi e biblioteche perdute, mi sto restringendo per la seconda paternità, cosa che, sarò sincero, è un po' più complicato di quello che pensavo e di quello che il mio amore incondizionato per il signor Pizzi mi ha fatto credere. Bando alle ciance, entriamo subito nell'argomento della giornata, meglio appunto di questa piccola registrazione, ovvero lo shareware. Di cosa stiamo parlando? Beh, diciamo che è un'epoca di DLC, demo allargate, giochi incompleti, bug, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Lo shareware è un modello di vendita e di distribuzione che ormai si può definire come desueto. Chiaramente, essendo l'argomento quello di archeologia videoludica, focalizzeremo un po' la nostra attenzione sui videogiochi in senso stretto, quindi lasciando perdere quello che è tutto l'universo di altre tipologie di software che vengono distribuiti in questo modo. Lo shareware vide un po' il suo picco negli anni 80-90 e in pratica una filosofia di distribuzione che permetteva due principali categorie di distribuzione, appunto. Una distribuzione libera dell'intero pacchetto gioco, diciamo, che poteva venire essere utilizzata in maniera totalmente gratuita con una richiesta eventualmente di un fondo o di un rimborso all'autore del gioco, oppure in versione limitata, ovvero gioco completo per 30, 60, 90 giorni, dopodiché era necessario procedere all'acquisto per poter comunque continuare la propria esperienza ludica. Nel tempo però si vede che questo tipo di distribuzione, appunto shareware modello 1, se vogliamo chiamiamola così in modo da intenderci, aveva in qualche modo i suoi vantaggi, in quanto permetteva ai distributori indipendenti di venire comunque pagati per il loro lavoro, cosa che spesso, in un'epoca in cui l'autore stesso del gioco non era riconosciuto, diciamo non era così scontata. Di contro, diciamo che trovava due grossi ostacoli. Il primo era che spesso le banche dati, quello che una volta era diciamo l'antenato di internet, presentavano diverse tipologie di giochi, di shareware, numerose, cosa che portava da una parte ad avere uno spazio limitato di visione, quindi ben pochi erano i titoli che in qualche modo potevano venivano supportati, e dall'altro lato spesso coloro che mettevano delle versioni shareware in verità mettevano delle versioni incomplete che avrebbero diciamo completato una volta avuto un adeguato finanziamento, cosa ha comportato banche dati piene zeppe di giochi che non vedono mai diciamo il loro compimento. Se avete in mente un early access di Steam, ecco, siamo da quelle parti. Vista la malparata, quindi verso inizio degli anni 90, e qua entriamo un po' anche in quello che è il focus della puntata vera e propria, alcune case distributrici e alcuni autori, fra cui Scott Miller, decisero di variare un po' quello che era il modello distributivo shareware, portando a quello che possiamo definire un'evoluzione, un modello 2, ovvero i giochi vengono sì distribuiti gratuitamente, ma in formato episodico. Quindi ad esempio, diciamo ad esempio After D, venivano distribuiti i primi due capitoli della storia, ma per poter giocare al gioco completo era necessario comunque diciamo acquistare il pacchetto definitivo. Questo modello sembrò più vincente, quindi per diversi anni raggiunse un ottimo bacino di utenza, poi con l'avvento di internet, con l'avvento delle demo, con l'avvento della distribuzione non più su dischetti ma su CD, quindi laddove comunque la spazio di memoria era sicuramente maggiore, quindi solitamente ci si affacciava con un unico CD contenente tutto il gioco, capite che questo modello è nato scemando se non morendo. Cosa dire e quali vantaggi vogliamo portare un po' di questo tipo di distribuzione? Innanzitutto permetteva un contatto più diretto fra il produttore del gioco, quindi chi sviluppava il gioco, e il pubblico finale. Spesso infatti, e sono ad esempio gli stessi autori di Wolf 3D a raccontarci in un loro libro, scusate, questo tipo di distribuzione permetteva di presentarsi ai negozianti dicendo: guardate, vi lascio le mie copie del mio gioco, così mi fate un po' conoscere, poi eventualmente se c'è un ritorno ci confrontiamo e capiamo un po' cosa fare. Ad esempio il primo Doom venì distribuito nei primi capitoli in versione gratuita ai negozi, che potevano quindi fare il loro margine che ritenevano più adeguato. Questo portò a una distribuzione enorme del gioco e al successo che poi tutti noi conosciamo. In seconda battuta, lo shareware permetteva di ottenere un finanziamento più immediato, se vogliamo, di quello che poteva essere il normale canale distributivo, ma di mantenere comunque diciamo un controllo su quello che è lo sviluppo, quindi decidere cosa e quanto rilasciare di un gioco. Se pensiamo ai numerosi titoli moderni che escono buggati in maniera inverosimile e vengono definiti come giochi completi, possiamo ben capire che anche dal lato utente probabilmente questo tipo di modello presentava sicuramente dei vantaggi. Cosa dirvi? Sicuramente alla fine questo modello distributivo scemò e si trasformò in freeware, quindi dove i giochi vengono distribuiti completi, in freemium, dove un gioco completo comunque richiede un esborso di denaro per poter raggiungere dei livelli più elevati, e possiamo definirlo un po' come forse uno degli eredi più distintivi, uno degli eredi più netti di quello che è stato questo modello distributivo, e infine i giochi in copyright, quindi quelli che solitamente comprate nei negozi oppure su Digital Store. Ecco, diciamo che appunto Shareware, come molti altri modelli dell'epoca, o comunque come altri modelli che in qualche modo si affacciano sul mercato, racconta, diciamo, un passato che purtroppo non c'è più. Quindi lo si ricorda con amorevole affetto, lo si ricorda fra un download e un altro. Non vi nascondo che in quel periodo lo Shareware spesso, per poter giocare al gioco completo senza dover fare un minimo sborso di denaro, veniva piratato e craccato, quindi diciamo che la debolezza del modello era comunque insita. Però è comunque bello ricordare come anche l'industria seppe in qualche modo inventarsi per rendere ancora più diretto il rapporto fra sviluppatore e giocatore, cosa che forse in questi anni si è un po' perso. Con questo diciamo che posso lasciare la parola ai miei colleghi, amici e compagni di avventura. Vi auguro una buona serata e a risentirci a presto. Oh Marco, adesso ti è tutto più chiaro, no? Tu facevi shareware già a tempi... Io faccio shareware continuamente, a volte lo faccio senza rendermene conto. Esatto, quindi insomma finalmente siamo giusto, Giuseppe, insomma sì. Abbiamo messo, diciamo, abbiamo messo un punto su una cosa che in effetti io penso che a tanti è rimasto un po' il dubbio, no? Quindi questa questione, perché molti confondevano tra l'altro il shareware col freeware, oppure il fatto che uno shareware era libera la distribuzione. In realtà non c'era anche, se ti ricordi, quest'altro famoso termine che aleggiava assieme, che era pubblico domain. Sì. Bravo, grande, è vero, giusto. E poi appunto nasceva la confusione effettivamente, che cos'era pubblico dominio e cos'era shareware, no? Che sì, era un periodo abbastanza fervente, perché in effetti... Cioè io mi ricordo che queste definizioni, la stessa, diciamo, nella stessa rivista, nella sezione dedicata al disco che ti davano, c'era tipo solitamente un trafiletto che ti spiegava effettivamente queste, che cos'erano queste cose, per appunto per non poi rimanere deluso dopo, no? Una volta che avviavi il gioco e dicevi, ma le altre parti come le gioco, anche se me le elenca. Va bene, io direi a questo punto ricominciamo con la nostra racconto, perché ovviamente appunto nasce Wolfenstein, che è il gioco che fa la rivoluzione. Poi io direi, farei, se vuoi possiamo fare anche due chiacchiere pure su Duke Nukem, perché penso che le meriterebbe, no? Però prima procediamo con l'ordine, non esatto. Cioè, il passo è quasi breve, però ovviamente Duke Nukem, Wolfenstein 3D fu una rivoluzione, proprio perché non si erano mai visti giochi di questo genere, quindi molti cercarono anche all'infuori della stessa Apogee a sviluppare giochi analoghi. Non solo, ma anche, prima che me lo dimentico, visto che aveva preso piede e Apogee, insomma, era già diventato con Wolfenstein 3D un colosso, perché comunque guadagnò qualcosa come più di $500,000 nell'arco di pochissimo tempo, ma anche per la felicità di Carmack, Romero e company DD. In pratica anche molte altre software, molti altri publisher, come ricordiamo Epic Mega Games, incominciarono pure a utilizzare questo modello di business dello shareware, oltre appunto anche poi a produrre anche loro, provare a creare loro altri giochi in 3D. Paradossalmente la stessa Apogee ovviamente non si voleva limitare a creare solo questo gioco. Innanzitutto uscì praticamente un anno dopo Wolfenstein 3D, sempre dalla stessa Apogee e che utilizzava lo stesso motore grafico di Wolfenstein 3D, un altro gioco però con ambientazione fantascientifica anziché appunto nazista, che non so se vi ricordate, era Blake Stone, Aliens of Gold. No, lo sai, questo no. Non conosco. Allora, se guardate qualche video, comunque ve lo dico subito, è appunto una specie di Wolfenstein 3D, dove però tu sei tipo una specie di agente in un ipotetico futuro e spari tipo col laser agli alieni anziché ai nazisti. Però se guardi è praticamente, sembrerebbe quasi un Wolfenstein 3D reskinnato, ma non è così, perché comunque è lo stesso motore che hanno utilizzato per fare un altro gioco. Solo che siccome in contemporanea Apogee stava continuando comunque a sfornare anche altri titoli bidimensionali, quindi platform, addirittura alcuni pure educativi. Pensa che uscirono due giochi sviluppati dal Redwood Games, però pubblicati dall'Apogee, che erano World Rescue e Math Rescue, che erano tipo appunto per insegnare ai bambini le parole, la grammatica inglese ovviamente, e la matematica, sempre con i con la struttura del platform alla Super Mario. Comunque appunto anche con quest'altra uscita di quest'altro gioco in 3D, insomma, Scott Miller e soci si guardarono e dissero: non vorrei che diciamo la nostra eredità che ci portiamo dietro, insomma, possa generare un po' di confusione. Allora, sai che facciamo? Separiamo il brand dei platform bidimensionali con quelli dei giochi tridimensionali. E allora facciamo uscire tutti i giochi, i futuri giochi tridimensionali, tra cui per esempio un'altra serie di giochi sempre di Blackstone in poi, con l'etichetta 3D Realms. E qui appunto nasce l'altra costola della software house / publisher che abbiamo considerato. Quindi siamo ovviamente nel 1944, quindi due anni dopo l'uscita di Wolfenstein 3D. Faccio solo una piccola, così, insomma, sì, mi intrometto un attimo proprio su questo Blackstone, sì, Alien of God, sì, perché è indiscutibilmente identico, perché è lo stesso motore, sì, chiaramente, di Wolfenstein 3D, ma già ci sono si notano sensibilmente le migliorie, perché rispetto a Wolfenstein 3D, per esempio, ha la profondità dell'illuminazione, cioè nel senso che si dà praticamente un po' del senso di profondità con praticamente questa specie di pseudo profondità di campo, chiamiamolo così, ma in realtà non c'entra niente, con l'illuminazione, cioè nel senso quello che è più vicino è più illuminato, quello che è più in profondità è meno illuminato, che già, insomma, denota un certo sforzo per creare dei miglioramenti tecnici, quindi non limitarsi solo a replicare un motore grafico, insomma. Il gioco è identico ed è anche molto carino, ma è sfuggito. No, ha detto, è tutto potrei recuperarlo. È tutto Blackstone. Sono due trilogie, perché appunto la prima è Alien of Gold, che però ancora usciva, però, cioè spuntava nella schermata Apogee. Se poi vai a vedere l'anno successivo, che appunto siamo nel 94, quando è stata fondata 3D Realms, la seconda trilogia, sempre ovviamente poi rilasciata con la modalità dello shareware, era Blackstone Planet Strike, ed era già finalmente 3D Realms come publisher. Solo che in quel periodo succede anche un'altra cosa particolare, ossia siccome nasce una specie di battibecco tra Apogee e id Software, e la cosa curiosa è che questa disputa nasce proprio per come il publisher gestiva gli ordini, perché Apogee ancora in quel periodo gestiva le cose, diciamo, con una persona, cioè c'era una persona alla scrivania che andava via via guardando gli ordini che gli arrivavano via posta cartacea, quindi non c'era niente di elettronico, e andava via via smistando e poi mandando i vari software completi a chi è che li aveva richiesti, e questa cosa un po', diciamo, non stava stretta a id Software, per cui Romero e Carmack lasciano l'azienda e se ne vanno, cioè id Software esce da 3D Realms Apogee per diventare proprio un'entità a sé stante. Questo perché gli facevano perdere i soldi. Sempre i soldi, esatto, quando esatto. Si litiga o so le femmine o so i soldi. Solo che era anche un guaio, solo che era un guaio anche per Apogee, perché in realtà Apogee nel frattempo, anzi sin da dopo che si erano già visti gli effetti molto benefici dal punto di vista finanziario delle vendite di Wolfenstein 3D, aveva già intenzione di commissionargli un seguito, per cui si era già subito messa anche al lavoro, e comunque erano partite, cioè c'era già del codice scritto dietro. Allora, l'engine che volevano fare per un ipotetico seguito di Wolfenstein, una volta che ID Software se n'era andata e che erano loro i detentori comunque del diritto, sempre per quello che avevo detto prima, che Apogee non in quanto publisher gli permetteva agli sviluppatori di mantenere i diritti del loro IP, le loro proprietà intellettuali. Allora, che cosa fecero? Questo mezzo a crocchio dobbiamo comunque cerchiamo di commercializzarlo, però cambiandolo e non usando ovviamente il nome Wolfenstein 3D, no? E allora che cos'è che nasce? Nasce, se vi ricordate, Rise of the Triad. Marco, non lo ricordate Rise of Triad? Assolutamente no. Ma che cosa allora, hai giocato tu? Nel frattempo che ne parlo, recuperate guardando sempre qualcosa su YouTube. Ma se guardate Rise of Triad, ci sembrano tutte uguali. Rise of Triad è un altro, ovviamente, FPS per quell'epoca molto particolare da un punto di vista, perché innanzitutto era un'ambientazione sia, diciamo, sullo stile dei nazisti, perché comunque guardi che, cioè, vedi che ci sono tizi nel metto e uniforme che ricordano vagamente i nazisti, però comunque hai pure tipo un po' di elemento tipo soprannaturale, stile con demoni, no? Non a caso c'è questo, perché in contemporanea all'anno di uscita di Rise of the Triad, nel frattempo, che cos'è che aveva tirato fuori ID Software? Doom, no? Quindi loro, diciamo, dovevano rilasciare qualcos'altro anche per contrastarli. Questo gioco era particolare perché comunque innanzitutto ti permetteva anche di selezionare più di un personaggio con cui farti un livello, e in base al personaggio che selezionavi avevi, diciamo, delle armi diverse di partenza. E poi è uno di quelli che introdusse per la prima volta la possibilità di fare fuoco con due pistole in contemporanea. Sì, esatto, sì. E beh, qui è molto dummiano anche questo gioco, comunque. Sì. Lo ricorda molto Doom, diciamo così, per certi versi, non so perché. Che poi uno si chiede: ma perché questi devono andare dentro i labirinti a far sparasse? Sì. Comunque, no, aveva anche un'altra cosa molto particolare, perché aveva pure una specie di smart bomb. Aveva un, cioè, tornando agli elementi soprannaturali, aveva un power up che tipo ti rendeva invincibile, però ti permetteva tipo di lanciare una specie di smart bomb globo, che praticamente quando lo lanciavi andava a colpire tutti i nemici, stile cosa autotracciante, però proprio ne lanciavi un globo e comunque anche quando toccava un nemico lo distruggeva, ma poi continuava al successivo, no? Quindi immagina tipo un'area aperta in cui c'erano tanti nemici che ti circondavano, tu con uno solo di questi proiettili, insomma, facevi una strage. Oppure un altro power up che tipo ti trasformava in una specie di cane lupo invincibile, e andavi, diciamo, in corpo a corpo andando appunto a massacrarli. E poi c'era ovviamente non potevano fare tipo che solo la motosega come c'era in Doom, che avevano fatto quelli di D, altrimenti si sarebbero un po' incavolati. Allora loro introducevano il martello pneumatico, era tipo la mazza da baseball magica, che tipo che insomma era un gioco di parole, che il nome tipo era con Excalibur, no? Schizibur, esatto, qualcosa del genere. Era una mazza da baseball magica, anche con un'aura verde, che insomma faceva molto danno, non solo in corpo a corpo, ma permetteva tipo di lanciare anche palle da baseball a distanza pure. Comunque questo gioco c'ha anche dei fortissimi elementi, sì, di ispirazione platform. Sì, sì, se sì, ci fai caso, perché sono ovviamente le cose da raccogliere, zompare per raccoglierle magari mentre che sono ad arco, trappole. Sì, ci sono, cioè, molti elementi platform che evidentemente derivano probabilmente anche dall'estrazione, insomma, anche mm-hmm. della software house. Però sì, sì, me lo ricordo, adesso me lo ricordo. Non ci ho giocato tantissimo a sto gioco, ma me lo ricordo. Arriviamo finalmente al punto in cui aveva rilasciato pure questo, però in realtà i due progetti grandi su cui contava 3D Realms erano due. Uno che appunto uscì finalmente nel 96, che era Duke Nukem 3D. Ricordiamo ovviamente Duke Nukem esisteva già, perché negli anni precedenti il buon George Brossard aveva realizzato ben due platform, però quelli erano dei giochi appunto bidimensionali. Sì, ma la stessa cosa vale pure per Wolfenstein, che sai già c'era un gioco bidimensionale. Sì, sì, Castle Wolfenstein, esatto. Una cosa del genere, se ricordo bene. Che poi vabbè, su Duke Nukem ci sarebbe teoricamente da farci poi una puntata da qualche parte, ma non voglio dilungarmi troppo sulla questione in sé della serie, ma più che altro mi interessa parlare invece di Duke Nukem esatto 3D, che fu ovviamente un punto di svolta, innanzitutto perché utilizzava un motore diverso, per la verità era lo stesso che poi avevamo citato anche di cui faceva anche uso Rise of Tride. Mentre appunto il motore di Doom che era di D-Tech, ricordiamo, era appunto stato creato poi dopo che ID se n'era andata, aveva lasciato il publisher Apogee. Qua invece avevamo il Build Engine. Cosa molto particolare di questo motore, innanzitutto che a quei tempi fu commissionato dall'Apogee a uno studente diciottenne universitario di nome Ken Silverman, cioè una matricola ti ha creato in C un motore che poi andavi a usare per i videogiochi, che è stato poi sfruttato, dimenticato, e ovviamente esatto. Scusate se è poco, come si suol dire. Era un motore particolare e aveva diciamo anche dei vantaggi rispetto anche al come si chiama, al motore quello di Doom, perché rispetto a quello permetteva innanzitutto di creare tutta una serie di effetti speciali. Era molto interattivo, perché se vi ricordate per esempio in Duke Nukem 3D tu potevi tipo che so rompere la tazza del cesso, si creava l'acqua, poi l'acqua la potevi bere, c'era tipo all'inizio se vi ricordate il biliardo e potevi proprio giocare con le varie palle da biliardo per metterle in buca, vi ricordate tutte queste cose che si potevano fare? Sì, in sì. Ma Duke guarda, Nukem 3D. Duke Nukem è sì. Non soltanto un gioco estremamente rifinito, uh-huh. E anche se rozzo è un gioco anche estremamente raffinato, sì. Perché poi c'è la rozzezza del personaggio, ma il gioco era un cazzo di gioco, sì. Cioè proprio sì. Bello proprio sì, da giocare. Permetteva anche, se ti ricordi, di poter spostare, oltre appunto muoverti lateralmente per mirare, potevi anche comunque alzare in alto e in basso la testa, cioè verso sì, alto e verso basso esatto. La testa per era, mirare. Diciamo, grande innovazione. Completamente in 3D, sì. Esatto. E non solo, e permetteva appunto ambienti oltre, come ho detto, interagibili, anche distruttibili. Se vi ricordate è fantomatica la scena nel primo livello di Doom, dove per attraversare e raggiungere la fine del livello dovevi abbattere un palazzo, ve lo ricordate? Facendo scattare il detonatore e poi si vedeva proprio l'esplosione, il palazzo che crollava e tu lo attraversavi le macerie. Sì sì, ma poi c'era, ma già nel primo livello c'erano vari altri elementi, esatto, e questa era una cosa che invece appunto il Doom Engine non permetteva. Aggiungo un'altra cosa, che Duke mm-hmm. Nukem ha dato inizio anche agli script event, se tu ti ricordi, sì. Perché tu quando entravi nel cinema c'erano dei momenti precisi in cui sì. Tremava tutto, esplodevano cose o robe sì. Del genere, che erano andava via la luce, se ti ricordi, esatto. Tipo, eri al buio. Poi ovviamente questo qua in seguito fu utilizzato anche per un altro titolo pubblicato da 3D Realms, che era Shadow Warrior, che poi è uscito anche, se vi ricordate, il remake l'anno scorso, quest'anno non ricordo, quello del tizio che ammazza i demoni con la katana, sempre in prima persona. Sì. Quindi insomma la cosa bella è che proprio per quell'epoca, mentre tutti i vari cloni di Doom venivano appunto etichettati tali, tutti gli altri giochi che erano in prima persona con labirinti dove si sparava eccetera, Duke Nukem 3D fu l'unico che invece proprio quello è Duke Nukem, cioè, è lui l'originale, insomma. Esatto, spiccava nel gruppo. Poi ovviamente il, appunto abbiamo l'anno successivo come però ci sarebbero da dire un sacco di cose su sto gioco, ma proprio una marea di ci sarebbe da fare di c'erano pure i riflessi nei specchi. Sì, e lui se specchiava faceva lo sbruffone, c'erano le spogliarelliste che gli davi i soldi, I am good, I'm looking good, le spogliarelliste che se gli davi i soldi ballavano, oppure se gli sparavi diventavano alieni. Perché comunque Duke Nukem era diciamo un'icona a parte che era diventato praticamente una delle, era l'equivalente di Mario che per la Nintendo, no, Duke Nukem era per la Apogee 3D Realms, no? Era la loro mascotte, mascotte che poi rincalcava un po' tutta la cultura popolare degli anni 80, no? Perché comunque Duke Nukem mi ricorda è un misto diciamo dell'action hero preso da Arnold Schwarzenegger, sì, Stallone, molto B-movie, questi film qua. B-movie. Cioè addirittura proprio anche in particolare Schwarzenegger, perché c'è tipo in Duke Nukem 2 una schermata dove lui dice proprio, e c'è scritto anche nel testo, I'll be back, che ricorda praticamente The Terminator. Sì, sì, no, vabbè, ma lui era molto B-movie, proprio tamarrissimo e divertente per questo. Anzi, veramente all'interno di questo tipo di giochi, ah, vedi, c'era pure dietro lo schermo, se poteva andare, io lo sapevo. Sì. E pensa che fu, diciamo, poi il successo di Duke Nukem fu tale che il gruppo quello metal, i Megadeth, avete presente? Sì. Scrissero una canzone basandosi sul tema musicale di Nukem 3D. Beh, sì, comunque cioè, cioè un gruppo musicale che dedica una canzone a un gioco. Per quei tempi non era, diciamo, un po' come la prassi che ora ci sono gruppi musicali che magari vengono scritturati per la soundtrack, oppure da utilizzare magari in un trailer di presentazione di un titolo AAA. E poi ovviamente nel 97 e quindi stiamo arrivando quasi agli ultimi anni di successo della 3D Realms, abbiamo l'uscita di Pinball of Steel, cioè palle d'acciaio, quelle del flipper, che insomma era un flipper un po' sulla scia, se vi ricordate, di quelli per Amiga tipo Pinball Fantasies e Pinball Dreams. Di cui in uno dei tavoli c'era ovviamente il tavolo dedicato a Duke Nukem, tanto per cambiare. Poi c'era il testè citato Shadow Warriors, ma in parallelo alla gestazione dal 94 di Duke Nukem 3D, c'era il secondo grande progetto su cui scommetteva molto l'Apogee 3D Realms, che era Prey, non so se ve lo ricordate. Non lo vado a vedere perché così non me lo ricordo. Allora, Prey è un gioco che ebbe pure una lunga gestazione, quasi a rivaleggiare con lo stesso Duke Nukem Forever, perché fu in sviluppo per 11 anni. Addirittura. Sì, sì, sì, perché in continuazione loro non erano contenti dei loro prototipi, quindi poi a volte gettavano a mare tutto il codice e tutti gli engine nel tentativo di realizzare qualcosa di più potente, perché non erano soddisfatti, ma vuoi anche nel frattempo appunto continuare ad essere sempre più agguerrita la concorrenza. Allora, Prey in realtà poi alla fine è uscito nel è stato con cioè, aspetta, fammi cercare le date esatte, chiedo scusa che Prey, ho fatto la domanda a trabocchetto e a tragobetto. Alla fine pensa che Prey è uscito per PC e 360 nel 2006. Quel Prey è uscito, sì, solo nel 2006, mentre è diciamo stato concepito a partire dal 95, dal 1995. Quindi praticamente quasi come l'ultimo Duke Nukem, insomma. Esatto, 11 anni contro i 13 del Forever. Quindi ovviamente anche la cosa bella è che Prey, vabbè, aveva un'idea assurda, perché Prey, diciamo la storia di Prey è un nativo americano che con la sua famiglia viene appunto è preda di alcuni rapimenti alieni, che quindi c'è questa astronave che se li rapiscono, e lui tipo si libera e all'interno di questa enorme astronave deve riuscire a fuggire, quindi distrugge e utilizza le stesse armi degli alieni contro di loro. fu il primo titolo che introdusse anche la possibilità di utilizzare i portali. Non vi dice niente? Sì, portal, esatto, con la differenza, portal. Con la differenza che però qua ovviamente non c'era la tecnologia di Valve, cioè che non avevi tipo una pistola che ti permetteva di crearli in qualunque punto, ma erano fissi, no? Delle porte che attraversando in realtà ti teletrasportavano in qualche altro punto del livello. Però fu il primo gioco, il primo FPS a implementare questa idea. Poi appunto il discorso del Cherokee, del nativo americano, insomma, era così, tanto per cambiare il protagonista, averne uno originale. La cosa particolare è che sto gioco appunto iniziò, le prime build usavano anche il build, questo motore di 3D Realms, però appunto non furono mai soddisfatti, tant'è che infatti poi in seguito decisero di passare all'ID Tech 4 di Doom 3. Quindi cioè praticamente paradossalmente poi la stessa 3D Realms, che si trova ormai nei guai perché ha buttato ha speso tanti soldi dietro questo progetto, e nel frattempo appunto non aveva rilasciato quasi più niente, quindi non aveva delle revenue sicure da nuovo software, nuovi giochi minori gettati così, pubblicati sul mercato, va a chiedere appunto a quelli di poter usare il loro engine per farlo uscire. Oltretutto c'è anche qua, diciamo, possiamo cominciare a vedere il declino, anche perché loro praticamente volevano appunto terminato Duke Nukem 3D, puntavano molto su Prey. Vedevano che insomma era comunque erano ancora in alto mare, quindi che cosa fecero? Prey lo cancellarono a un certo punto. Siamo nel 2001, per darvi un'idea. Nel frattempo l'unico altro esordiente notevole che si affacciò, si avvicinarono questi tizi che si facevano chiamare Remedy, e avevano un gioco particolare che si chiamava Max Payne. Qui bisognerebbe fare un minuto di silenzio, secondo me. Esatto. E la 3D Realms pubblicò appunto sotto la loro etichetta. La cosa particolare è che questo gioco in pochissimo tempo sobbissò le vendite del Duca, e quindi avevamo praticamente nello stesso arco temporale praticamente triplicò il numero di unità piazzate. L'errore che però uno dei tanti che insomma sta portando appunto al declino, al fallimento di 3D Realms, sia come publisher che come software house, anche se in questo caso è come publisher, è quello di 3D Realms se ne accorse troppo tardi, e nel frattempo aveva già venduto i diritti di Max Payne, dell'IP di Max Payne, a Rockstar come publisher. Rockstar, che ricordiamo sono quelli ora di GTA. Ma Remedy in tutto questo mi è sfuggito, che hanno detto? Non dissero niente, tranquilli. No, allora gli stava bene, anche perché erano altri soldi in più, no? Che comunque come publisher. Remedy erano gli sviluppatori e loro hanno fatto da, esatto, publisher. Esatto. Tanto loro ricevevano lo stessi soldi, quindi non è che gliene fregavano. Esatto. Nel frattempo noi vabbè, purtroppo queste puntate così, sì, mi intristiscono il cuore. Noi stiamo a parlare di giochi che meriterebbero 10 puntate a testa, così ne parliamo come se fosse acqua fresca, cioè non nel senso, sì, l'esposizione di Giuseppe è fantastica, però è proprio il concetto di dover trascurare la bellezza di questi giochi, cioè, ma Max Payne 1, ragazzi, cioè, ma stiamo a scherzare. Per me era un film, cioè era un il, film. Sì, era un film. Sì. Aveva una storia comunque, diciamo, hard boiled poliziesca abbastanza interessante. Poi ti ricordi, c'aveva pure degli elementi soprannaturali, no? Sì. Queste cose delle, anche alcune, cioè, anche alcune scene in cui, diciamo, lui cade proprio, cioè, c'è questa transizione tra la sparatoria normale e lui che in preda a questi attacchi, no? con le valchirie e tutto. Io vi lancio una provocazione, sì, agli utenti che ci ascoltano. Mm-hmm. Fatelo, andate su YouTube, guardatevi l'introduzione di Max Payne 1, sì, e guardatevi l'introduzione, attenzione, ve lo sto per dire così, The Fahrenheit di David Cage. Mm-hmm. E poi mi saprete dire. Oltretutto ricordiamo pure che, siccome quelli all'inizio, appunto, Remedy era piccola come software house, loro, se ti ricordi, appunto in questa introduzione che è fatta con le varie vignette statiche, no? Che poi sono delle foto ritoccate, se guardi, è famoso il discorso che Max Payne è sempre Sam Lake, no? Sì, poi lui l'ha anche confessato. E tutti gli altri, diciamo, attori che si vedono in queste vignette sono comunque familiari o comunque amici del team di sviluppo di Remedy ai tempi, perché ovviamente loro non potevano permettersi contro attori volti famosi. Eppure il fatto proprio di non avere volti famosi, cioè avere una faccia comune, Max Payne, sì, secondo me ha avuto... Sì, già un po' la faccia da matto. Vabbè, sì, poi comunque Max Payne è stato quello che ha sdoganato la meccanica del bullet time, ricordiamo. Allora, no? Questo è il motivo per cui noi lo ricorderemo sempre nella storia, ma è stato anche uno dei primi giochi, ecco, un action adventure, ricordiamolo, in terza persona, tra l'altro. Cioè, io più lo guardo e più c'è Fahrenheit di David Cage, comunque. Fate questo paragone e vedrete che troverete delle analogie proprio stilistiche e registiche fantastiche. Se qualcuno mi dice che non ha preso ispirazione da là, è meno. Comunque, detto questo... Yeah, sotto casa, allora, era anche il gioco che aveva delle ambientazioni che dicevi quasi reali, cioè... quando correvi sotto la metro, delle ambientazioni grandissime. Poi, c'è un bambino, sì, morto. Poi era crudo. Esatto, cioè, nel senso, il primo gioco che ti portava veramente a una storia matura per davvero, cioè, nel senso, era tosto. Cioè, non era, ma proprio narrativamente era, e c'erano a parte il dramma iniziale, dal quale poi ovviamente iniziano tutti i problemi. Oh mio Dio, mia moglie, esatto, ha una texture di merda. Sì, esatto. Era una texture sul letto, infatti era una cosa un po' drammatica. Però vabbè, a parte questo, c'erano anche le scene di quando lui era drogato che camminava, sì, sulla striscia rossa, sì. Cioè, ragazzi, questo gioco era geniale dal punto di vista narrativo, quindi capolavoro assoluto. Mm-hmm. Forse tra anche questa è un'altra pietra miliare, diciamo, fondamentale nella storia del videogioco. Mm-hmm. E quindi, certo, tanto per ritornare, diciamo, a livello cronologico, certo, siamo nel siete d'accordo su questo, no? Sì. Marco, tu, insomma, sì, assolutamente, anzi adesso vado a casa a rigiocarlo, sì. Siamo nel 1997, come ho detto, appunto continua ad andare avanti il progetto di questo Duke Nukem Forever. Ah, scusa, ultima cosa, sì, scusa, perdonami, sì, doppiato in italiano. Certo. Max Payne, sì. Mica era da poco una cosa del genere, all'epoca, sì, in particolare. E non manco malaccio, insomma. Allora ci saremmo accontentati di qualsiasi cosa, voglio dire, sì, lo sappiamo, però vabbè, vai, scusa Peppe. E poi c'era lo scenario distruttibile, dai. Quindi loro mostrarono, diciamo, una demo teaser all'E3 di quell'anno, del 97, di Nukem 3D, però in realtà a loro non piaceva, quindi decisero sempre di buttare tutto l'engine del build di quello che avevano costruito e passare, questo per Duke Nukem, non per Preya, alla Real Engine di Epic Mega Games. Quindi ha sempre all'engine a farsi licenziare e quindi a spendere altri fondi per impiegare, appunto, e chiedere aiuto esterno, in questo caso a Epic Mega Games, che ricordiamo oggi sono quelli di Cliffy B e Gears of War. Poi, appunto, Prey, come avevo detto, era stato annullato e E quindi appunto l'unico focus era Duke Nukem Forever, che però continuava a insomma a bruciare tutti i fondi, anche perché appunto nel frattempo si erano affacciati anche sull'industry di quegli anni tanta gente di talento che lavorava per altre software house. Poi per poter appunto rimpinguare le casse, che cosa fece 3D Realms? Vendette tutti i suoi diritti di pubblicazione di Duke Nukem Forever a Take-Two per 12 milioni di dollari. Beh, la domanda è: chi è stato, chi è il più scemo tra i esatto scemi? No, però questa fu l'ennesima cappellata, no, di 3D Realms, che ormai non sapeva più come gestire la propria situazione, perché era appunto un gigante con le gambe d'argilla, no? Che non era solido, stava cominciando a scricchiolare. Esatto. E ovviamente loro poi presentarono l'ennesima cosa, questa volta all'E3 del 2001. Poi in contemporanea quell'anno ci ripensarono su Prey. Peccato che però Tom Hall aveva già lasciato la compagnia, che era, diciamo, l'ultimo rimasto, se vi ricordate, del Wonder Team, assieme a Carmack e Romero, assieme anche a metà del gruppo che aveva lavorato, degli sviluppatori che avevano lavorato su Prey. Quindi che cosa fanno? Per poter rilasciare questo benedetto gioco, farselo soprattutto sviluppare da zero, si rivolsero a un altro studio, che era appunto lo Human Head Studios, che era quello che avevamo detto che aveva utilizzato aveva lavorato con l'ID Tech 4 di Doom 3. Ovviamente, senza neanche dirlo, questo equivaleva a spendere ulteriormente risorse sia temporali che finanziarie. E comunque Prey si evolve perché introduce pure anche la possibilità di cambiare gravità per poter camminare sulle pareti, quello che, se vi ricordate, poi avevamo fatto poi sulla scena, è successo anche altri giochi come Alien vs Predator, no? La possibilità di non camminare solo su una superficie, ma anche sotto sopra. Sì, ma quello è perché però l'alieno che lo faceva, insomma. Vabbè, quella c'aveva la cosa qua, vabbè, loro ci avevano introdotto pure quest'altra novità per potersi sempre differenziare. Finalmente arriviamo al 2006 e quindi sto gioco Prey vede la luce sia su PC che su quell'epoca, siamo già, se non sbaglio, all'Xbox addirittura 360, che siamo al 2006. E questo sarà ricordato come proprio l'ultimo gioco sviluppato da 3D Realms. Che culo. Eh sì. E qui il concetto di archeologia videoludica se n'è andato proprio. Esatto. E tanto, diciamo, per chiudere completamente, ancora non era non aveva ancora visto la luce quel famoso Duke Nukem Forever, che nel frattempo aveva finito pure i suoi introiti. Si dice che, almeno voci interne dicevano, che lo staff veniva sotto pagato, ma molto. Lo stessa 3D Realms fu costretta a tornare nuovamente per battere cassa da Take-Two. Gli chiesero altri 6 milioni di dollari. Il publisher, e tu che ci dai? il publisher comunque gli fece una controfferta di, cioè, gliene offrì soltanto 2 milioni e mezzo, però stranamente 3D Realms rifiutò. Strano, eh? E fu così che arriviamo al 18 maggio del 2009, in cui 3D Realms ufficialmente cessa di esistere come etichetta sviluppatrice. Poi ovviamente riemerge nell'arco dei vari anni, a parte che dopo che cessa di essere etichetta sviluppatrice partono pure le dispute legali con, giustamente, Take-Two, che ha detto: voi ci avete comunque, noi abbiamo commissionato un gioco che dovevate rilasciare, dovete comunque farlo, altrimenti ci dovete pagare la penale, no? E con tutte queste, ovviamente, tutte queste beghe legali si vanno, diciamo, si sono risolte nel settembre dell'anno scorso, quindi siamo arrivati ormai ai giorni nostri. E nel frattempo, se vi ricordate, Duke Nukem Forever esce sotto Gearbox, che sono quelli, vabbè, della serie di Borderlands, eccetera, lo vanno a finire dopo ben appunto 13 anni. Gearbox al giorno d'oggi purtroppo è semplicemente un publisher di seconda categoria, esatto, di seconda o terza categoria, che per tirare avanti pubblica solamente il catalogo dei suoi vecchi giochi. Che tristezza. Bene. Io abbiamo fatto un excursus veramente molto molto lungo e, come ho detto, purtroppo bisogna focalizzare, nel senso che quando si racconta la storia dei videogiochi spesso e volentieri la si racconta anche per macro episodi, perché la storia dei videogiochi non passa solo per un videogioco, ma passa magari per gli sviluppatori, per la storia di uno sviluppatore o di un publisher o di una software house che comunque ha caratterizzato magari il mondo del videogioco in maniera particolare. Io a questo punto ascolterei la retro rassegna, visto e considerato che bene o male almeno dei giochi insomma ne abbiamo parlato insomma di quella che è stata la storia della 3D Realms, e ascolterei appunto Morgan che ci fa questa retro rassegna, che prende a spunto diciamo due giochi fondamentali, mi pare, Giuseppe, se non erro, sì. Wolfenstein 3D e Duke Nukem 3D e poi ritorniamo in studio, facciamo una breve pausa, facciamo delle riflessioni finali fra di noi, perché comunque c'è uno spunto anche magari per dare sfogo anche ai nostri ricordi, quindi ascoltiamoci prima di tutto la retro rassegna. Sta cari amici di Archeologia Videoludica, bentornati da Morgan alla nostra retrorassegna stampa, tutta dedicata in questo episodio a due titoli che hanno fatto la storia di una software house pioniera nella rappresentazione interattiva in 3D, ovvero 3D Realms. I titoli di cui sfoglieremo le pagine saranno Wolfenstein 3D e Duke Nukem 3D. Diamo quindi fuoco alle polveri focalizzandoci su tre riviste, tutte italiane, che hanno parlato della pietra miliare di ambientazione nazista. Su K numero 44 di novembre 91 l'articolo su due pagine afferma: pur facendo parte di un campo completamente differente, un gioco come Wolfenstein è decisamente paragonabile ai grandi successi della filmografia bellica degli anni 70. Solo, armato unicamente del suo coraggio, oltre che di una pistola a 8 colpi, il nostro eroe deve introdursi in un covo brulicante di nazisti, recuperando armi più potenti come mitragliatrici, cibo o medicinali. Ricordiamo che la rivista K usava includere in ogni recensione il box Confronta e Contrasta, nel quale metteva a paragone il gioco recensito con un classico del passato. Leggiamo. Non è stato facile trovare un gioco che si potesse raffrontare con Wolfenstein 3D. Forse è meglio dire che non è stato semplice trovare un tipo di gioco che ricordasse esattamente le sue caratteristiche. Certo, esistono molti giochi di ruolo che ricordano per di più di un particolare il titolo in questione, ma bisogna dire che non ne rispecchiano appieno lo spirito. Per trovare un gioco che ricordi realmente Wolfenstein 3D bisogna fare uno sforzo di memoria non indifferente e ritornare ai momenti d'oro del Commodore 64. Total Eclipse era infatti uno dei primi, se non il primo, giochi sviluppati seguendo la stessa falsa riga di questo prodotto della ID Software. Certo, l'ambientazione era completamente diversa. In quel caso si parlava di piramidi egizie e di astronavi, adesso chiaramente no, ma lo spirito rimane pressoché invariato. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che nel novembre 91 internet non era ancora la realtà di oggi, e in un trafiletto intitolato "Ma dove lo trovo?" possiamo leggere: "Non cominciate a fiondarvi in tutti i negozi per computer alla ricerca di Wolfenstein 3D, perché state sicuri che non lo troverete. Infatti il gioco è disponibile solo tramite il collegamento ad alcune BBS. I programmatori hanno distribuito nelle BBS di Public Domain una parte dimostrativa del gioco, così potrete darci un'occhiata e decidere se ordinarlo direttamente all'ID Software. Il demo può essere anche trovato nell'area BBS Ultimo Impero di K. Restiamo in Italia con CPVG numero 32 di dicembre 93 che, esaminando la pixellosa versione Super NES, afferma: inizialmente Wolfenstein non sembra niente di eccezionale, ma basta passare qualche livello per cambiare rapidamente idea. L'elemento strategico inizia infatti a farsi sentire e così dovrete cominciare a cercare le chiavi, passaggi segreti e a razionare le vostre risorse. Peccato però che il game non risulti totalmente coinvolgente e che, in fondo, ricordi molto le sezioni in 3D di Jurassic Park. Comunque il gioco non è male, anzi, è realizzato in maniera più che discreta e non ha nulla da invidiare alla sua controparte per PC. Giocabilità 77, globale 80. Chiudiamo la nostra finestra italiana su Wolfenstein con Super Console numero 3 di aprile 94, rivista dedicata al Super NES, che in un articolo ricco di foto e dal fondino psichedelico sentenzia: la visuale del gioco è insoggettiva e tutti i livelli sono interamente ritratti in modo 7, che ricordiamo era una modalità grafica del Super NES. Di conseguenza, tutto ciò che il giocatore vede attraverso gli occhi del protagonista incede, si allontana e ruota in maniera tale da far vomitare chi soffre di mal d'aereo. Ciononostante, l'azione procede fluidamente e a gran velocità, sebbene il protagonista sembri viaggiare su pattini a rotelle anziché pedinare furtivamente la sua preda. E ancora, questo gioco ha un fascino che non dura oltre i primi 3 livelli. Una volta che ci si rende conto che il gioco non ha da offrire altro che una scena di violenza gratuita dietro l'altra, la carneficina diventa noiosa. Non c'è nulla di esaltante nell'abbattere dei cani al suolo o riempire di piombo, in modo 7, rappresentazioni blocchettose di esseri umani, quando altrove ci sono sparatutti più divertenti che esigono la nostra attenzione. Wolfenstein sarebbe stato un gioco migliore se al posto degli uomini e dei cani che stramazzano in un lago di sangue ci fossero stati cyborg e droidi. Voto globale 66. E ora un rapido flash in campo internazionale. La rivista TCT del 2000 assegna voto 100 per la versione DOS. Fantastico, uno dei 50 classici di sempre, dal motore così efficiente che la ID dovrebbe usarlo per molti giochi a venire. La rivista rumena Top Secret di novembre 92 gli assegna un ulteriore 100. Sensazionale questo Wolfenstein, quando la grafica e il gameplay sono buoni, il gioco tira. Dalla francese Jeux Vidéo di novembre 2011, la versione per Macintosh viene definita un monumento al patrimonio del videogioco, un'esperienza che ha cancellato ai videogiocatori 20 anni di giochi passati, segnando la loro visione di gioco per sempre. Nintendoio assegna voto 60 tranciando la versione Game Boy Advance con: a meno che non siete alla ricerca di un viaggio nella memoria, potete benissimo cercare un gioco migliore di questo. Giriamo ora completamente pagina e andiamo a leggere le recensioni della stampa su Duke Nukem 3D, lo sfacciato titolo 3D Realms che ha scandalizzato le pagine italiane di Mega Console nel novembre 97, che in una recensione per Saturn, tra fantastiche foto del roster di armi, afferma: chiunque ha giocato a Exhumed poteva pensare di aver raggiunto ormai il massimo che il Saturn potesse offrire. Invece Duke Nukem va ben oltre, fissando un nuovo standard con cui tutti i concorrenti dovranno misurarsi. Tutti i livelli, che sono la fedele trasposizione di quelli proposti nella versione originale per PC, anche se non presentano alcune piccole texture, sono stati impreziositi con nuovi e spettacolari effetti visivi e di luce, che donano all'ambientazione un fascino nuovo e particolare. Dopo la sconvolgente, nel senso più negativo del termine, conversione di Doom per Saturn, i capoccioni Sega devono aver pensato di affidare una patata bollente come Duke a gente un filo più capace e, come avete potuto capire, hanno fatto un gran bene a scegliere Lobotomy. Tutto in questa conversione è stato curato al massimo. Grafica, sonoro, giocabilità si miscelano in modo perfetto, creando un cocktail davvero esplosivo. Forse il commento più giusto per questo gioco sarebbe quello di fare, come la settimana enigmistica, quando una vignetta non prevede battute. Potremmo infatti mettere una foto particolarmente rappresentativa e scriverci semplicemente sotto senza parole. Così siamo infatti rimasti in redazione quando abbiamo fatto girare per la prima volta Duke Nukem 3D. Bene, anche Game Power numero 62 di giugno 97 rilascia un ulteriore articolo della versione Saturn. Mentre, restando sempre in Italia, con la nostrana Game Republic, che sul suo primissimo numero recensisce la versione Zero Hour per Nintendo 64, esordisce con un entusiastico: credevate di aver visto tutto quello che Duke ha da offrire? Illusi! La sua seconda incursione su Nintendo 64 è spettacolare. Anche se odiate gli sparatutto, non potete resistere al fascino di Duke Nukem. voto 4 su 5. Dalle edicole della vicina Francia, la rivista Consoles numero 70 del novembre 97 annuncia la versione Nintendo 64, esaltando le sorprese di cui è ricca, tra cui nuovi livelli esclusivi ed armi inedite, ovviamente rispetto alla versione PC. Dedica inoltre un apposito riquadro alla modalità multigiocatore, in split screen. Voto globale 94. Restando in Francia, Player One, a pagina 128 del numero 80, definisce come veri fuochi d'artificio gli effetti speciali in 3D del gioco. Con trasparenze mai viste prima, è il boss di fine livello realizzato totalmente con poligoni in 3D. Ancora, la versione britannica di Nintendo Magazine, nel numero di dicembre 97, con un servizio su ben 4 pagine, mette in guardia. Attenzione, il più popolare gioco per PC è arrivato su Nintendo 64 e sta per prendere a calci in culo tutti. E ancora, riferendosi ai livelli al labirinto, gioca con le parole «It's amazing». Un box a parte è dedicato alle frasi più sboccate del Duca pronunciate durante il gioco. L'americana Nintendo Power nel numero 102 lo definisce come la migliore cosa mai fatta su Nintendo 64 dopo GoldenEye 007. Alcune armi sono un vero sballo, come la Expander, la migliore arma mai creata nell'universo. Chiudiamo con un pesce d'aprile, pubblicato sulla versione italiana di Zap numero 88, dove viene recensita la fantomatica quarta puntata di Mercenary per PC, che ricordiamo era un classico gioco vettoriale nato su Commodore 64. In questo articolo, ricco di particolari su gameplay e corredato da numerose foto, le foto stesse ritraggono gli sfondi che non sono altro che immagini rubate da Duke Nukem 3D. Bene, con questo è tutto, e ricordandovi che le scansioni di tutti gli articoli citati potrete trovarle nelle note dell'episodio, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo episodio della rassegna stampa di Archeologia Videoludica. Ciao da Morgan! Benissimo, grazie anche a Morgan per questa rassegna stampa che sta diventando, appunto, come abbiamo detto, insomma, i tre elementi fondamentali che un po' spezzano anche il racconto di Archeologia Videoludica e che portano anche buon prestigio, perché poi alla fine comunque rappresentano un po' un'innovazione, un po' delle perle. Mm-hmm. Tra l'altro questa cosa della retro rassegna, un po' come Passione Sound Design su Dietrologia Videoludica, forse potremmo farne anche proprio una rubrica a parte da distribuire anche singolarmente, perché sai, una cosa potremmo chiamare Selezione Morgan. Selezione Morgan. Vabbè, questa la capiscono in pochi, però diciamo così, però chi la capisce apprezzerà. Dicevamo che è venuto, è tornato, quindi diamo un saluto a un amico che torna, poi magari non sempre, però insomma, che pure lui stava in coma ma adesso è uscito, no e che lui insegue una serie di progetti, uno in particolare nella sua vita, che poi magari una volta ne parleremo anche forse su un podcast che tra l'altro anch'esso sta per tornare, perché la prima settimana di dicembre ritorna di tutto un podcast, attenzione, dopo tanti anni. Come siete vecchi, come siamo, è veramente ritorna un podcast che ha dato la storia un po' a IPN, quindi insomma ci fa piacere a me e Michele ritornare con questo nuovo vecchio format e vabbè, comunque ne parleremo lì. Comunque stiamo parlando di Andrea Milana che torna con i suoi Guarda Milana, esatto, che ritorna con i suoi remix tanto amati da Luca Casciola ma allora, non confondiamo le cose, c'è stata una polemica una volta su anche, come ti posso dire, delle comprensioni, ma in realtà, cioè, vuol dire, oltre a essere un bravissimo musicista, Andrea comunque fa questi remix per i quali tra l'altro anche a livello internazionale è anche popolare, quindi ci fa piacere insomma ritornare a far risentire per paesi. Quindi allora, Marco, di che parliamo di un remix. Un remix, sì dolce remix. Metti la mano remix. Remix. Esatto. Che praticamente è stato usato nella demo di qualche cosa, ma non so di cosa, francamente. No. Lo scriveremo nelle note dell'episodio, non ti addentrare in questione dentro. Ed è un gioco Amiga, Statix, sviluppato dalla Seventh Seventh Sign, senti che pronuncia, è pubblicato da Black Legend nel 95. Se fossimo stati in Giappone sarebbe stato Baraku Legendu nel 95. E la musica originale di Gustav Grifberg, e il titolo di questa canzone è Against Time. Rientriamo in studio ringraziando sempre Andrea Milana per questi fantastici remix, in particolare appunto questo di Statix, che per precisione, visto considerato che l'informazione prima è stata un'informazione un po' parziale, perché Marco è un po' distratto. Diciamo che mi danno anche delle informazioni parziali, mi scrivono parzialmente a destra e a sinistra. Perché la peculiarità di questo brano? La peculiarità di questo brano è perché questo brano appunto fu utilizzato soltanto nella demo del gioco che fu inserita nelle riviste. In quale realtà rivista? Nel gioco originale non c'era. Quale non rivista? C'erano proprio. C'ero tu quale rivista te che sei? The Blue Light of the Laser. Laser Bros. Va bene, grazie. Beh, Andrea. Poi come No More I Love You di Annie Lennox, che fu inserita nella colonna sonora. Ha fatto noi buttiamo in cacerella tutto quanto, ma come al solito nelle note dell'episodio troverete le informazioni che Andrea ha voluto condividere con noi, oltre ovviamente al remix che vi abbiamo appena fatto ascoltare. Detto questo, allora Peppe, ritorniamo un attimo a noi. Abbiamo fatto questa grossa camminata e poi giustamente tu suggerisci uno spunto per chiudere un po' la trasmissione. Quali sono stati i giochi che abbiamo amato di più della 3D Realms? Io inizierei da te, proprio perché comunque bene o male insomma hai fatto l'onore di tutta la trasmissione. Vabbè, a parte ovviamente il trio, la trinità dei giochi 3D che era Rise of Triad, anzi la quadrilogia, non trinità, Wolfenstein 3D, Rise of Triad, Duke Nukem 3D, e anche giocai Blackstone, che ricordo ci fu un aneddoto divertente, perché Blackstone lo scoprì quando ero collegato appunto alla BBS, solo che ai tempi avevo il collegamento quello appunto del scarsissimo 9006, e tenni occupato la linea di mio padre a casa per qualcosa come un paio d'ore, che allora significava tanto, sì, tempo. perché aveva la dimensione di un floppy HD, quindi tipo un mega e due, no? Se sei rimasto rimasto senza cena per una settimana non era per punizione. Però poi è valsa tutta, perché per tutta quella settimana e forse anche la successiva giocai a tutto quel primo episodio sempre, perché era solo la versione shareware. Poi altri giochi, vabbè, mi ricordo appunto sempre tutta la serie di Commander Keen, mi piaceva anche, se ricordate, Monster Bash che dir si voglia, che era questa specie di bambino col classico pigiama in calzamaglia che andava ad ammazzare, a tirare tipo con la fionda per ammazzare i mostri. I mostri. Infatti, i mostri vampiri fantasmi e cose del genere. Poi insomma, tutti questi altri giochi che erano sempre comunque dei platform, non so se vi ricordate pure Hocus Pocus, che era quello invece del maghetto stile Harry Potter che andava a sparare tipo fulmini contro le varie creature, doveva anche, c'aveva tipo dei puzzle assurdi che tipo richiedevano di andare a toccare sempre a distanza con questa magia del fulmine i vari interruttori per poter aprire la porta, oppure come altri particolari, non so, vi ricordate Secret Agent, che era quello dell'agente segreto, Biomanace, che ricorda più o meno anche Duke Nukem, perché andavi sempre a carbonizzare e ammazzare gli alieni, insomma. E poi non so, vi ricordate Death Rally, che era praticamente una specie di conazzo, questa volta non dei giochi platform ma di Mario Kart. Questo qua sviluppato, pubblicato. Non so perché, ma qualcosa mi dice che sono orgoglioso di non averlo conosciuto. Però tieni presente che è stato sviluppato dalla Remedy. E pubblicato anche la Remedy ha le sue 3D Realms, esatto, c'è i suoi giochi oscuri. Insomma, però aspetta, Giuseppe, scusa, sì. No, perché sicuramente l'escursus, perché a me, io capisco che è pure una domanda difficile, perché come sì. Se uno mi dice qual è il disco più bello che tu abbia mai ascoltato, io non so. Vabbè, quelli però, più belli in assoluto, devi scegliere due, dai. Allora, gioco facile, dico Wolfenstein 3D e Duke Nukem 3D, perché quelli veramente hanno segnato la svolta. Erano i giochi che io facevo vedere una volta che avevo già abbandonato l'Amiga ed ero fiero possessore PCista. Ricordo poi, specie con Duke Nukem 3D, ancor più di Doom, le varie serate LAN party in cui andavo proprio a prendermi col mio case, andavo a casa degli altri amici e facevamo, perché Duke Nukem aveva pure un bel comparto multiplayer, se vi ricordate. Ma io mi ricordavo di Doom, di Duke Nukem. Anche Duke Nukem aveva la. No, c'è credo. Era in multiplayer. Ma anche perché sennò avresti giocato con degli amici invisibili e non giochi esistente. Poi vi ricordo che Duke Nukem c'aveva, non per tirarlo sempre in ballo, l'arma più bella e fuori di testa, che era quello che serviva per ridurre i nemici e poi acciaccarli come degli insetti. Non so se ve lo ricordate, c'aveva il riduttore come arma. No. Che cosa tristissima. Si vede che non siete veri fan del Duga. No, io io sono un vero fan del Duga, ma tante cose non me le ricordo, anche perché veramente l'ho giocato all'epoca e poi basta. L'unica cosa, no, forse giocavi poi successivamente delle versioni perché erano potenziate, perché potevi metterla a risoluzione, ma insomma, vabbè. Cose, io mi ricordo che sul primo PC addirittura mandava veramente a scatti, cioè proprio. O anche, per questo, anche per esempio Wolfenstein, se vi ricordate, poi ci furono tipo i vari editor per poter inserire, cioè sia farsi i propri livelli, sia cambiare le, diciamo, i frame dei nemici. Quindi non so se vi ricordate Wolfenstein con la versione di Street Fighter, dove al posto dei nazisti c'erano Blanca, Honda e tutti gli altri personaggi di Street Fighter. Che simpatici hacking, sì, sì, esatto, ci furono questi hacking, ma proprio per di quel periodo. Non è una cosa postuma, diciamo, sulla scia dei trend odierni, no? Vabbè, Marco. No, io vado un po' più sul moderno, io mi ricordo solo Max Payne. No, non puoi ricordarti solo Max Payne. Però no, giocato, l'ho detto prima, Wolfenstein 3D sul computer durante il militare, uno dei capitoli, non shareware, quindi qualche capitolo. E poi basta. Tre capitoli erano. Allora quelli. Qualcuno, forse prima era un shareware, quindi non mi ricordo quale ho capito, quale ho giocato. E poi che vabbè, forse Duke Nukem, non so se quello per il Nintendo 64 lo possiamo mettere, dai. Duke Nukem 64. Sì, perché ovviamente poi sempre per battere cassa 3D Realms, quando ancora aveva le licenze, permise appunto di poter portare Duke Nukem 3D su altre piattaforme. Quello mi è divertito, l'ho giocato un parecchio, ovviamente in terza persona, perché a me, sai, in prima persona non c'ho tanto feeling. E c'era il Gatling Gun con i proiettili a plasma che rimbalzavano. Perché si poteva giocare in terza persona di Duke Nukem. Quello del 64, sì. Esatto. Bello. E c'era il Gatling Gun che sparava le pallette di plasma che rimbalzavano ovunque. Quindi tu potevi ammazzare pure i nemici da dietro l'angolo. Quindi queste pallette che sparavano. Vabbè, quello. Vabbè, quindi, però c'erano i viaggi nel tempo. In Duke Nukem 64 c'erano i viaggi nel tempo. Lui tornava. Lui all'inizio del gioco incontra se stesso del futuro che era andato indietro nel tempo. Quindi immagina che bel gioco, veramente. Invece sì, ma cioè è un po' un casino, perché in realtà effettivamente devo dire Wolfenstein, perché non posso non dire Wolfenstein effettivamente, perché secondo me è stato un gioco che ha cambiato tutto, e il gioco che ci ho giocato veramente tanto. Però se devo dire proprio la verità, proprio in assoluto, il più bello è stato Max Payne 1. Cioè, che schifo, Max ci ho giocato, capisci, ci ho giocato e giocato, e l'ho finito, versione Kung Fu, tutto. Sì. Ah, già, è vero, poi ce l'hai tutto dopo, è vero. Grande gioco, ma grande storia, proprio narrativamente è stato proprio il gioco che forse ecco, quello ha introdotto, ecco, anche quello è stato a modo suo una rivoluzione, perché ha portato nel mondo dei videogiochi un'esperienza narrativa matura, che non era solo il discorso della violenza in sé, che già c'era, insomma, nei videogiochi, ma la crudezza di una storia potenzialmente anche vera, cioè per certi versi, no? Poi chiaramente dopo prendeva poi delle derive particolari. Mi è piaciuto anche il 2, ma il primo è stato per me un capolavoro che ancora oggi lo ricordo quando penso a Max Payne. Mi viene in mente sempre Sam Lake. Mi viene sempre in mente il fatto che lui ogni tanto zompava fuori dagli angoli a rallentatore, a volte anche a sproposito. A volte anche dentro i muri. E a volte anche dando le capocciate ai muri, certo. Però vabbè, era una figata, perché era un'innovazione anche quella. Questo è quanto, ragazzi miei. Quindi io penso, insomma, speriamo, sappiamo di non aver reso omaggio giusto, cioè nel senso del modo proprio No, però abbiamo comunque ricordato l'importanza di questa prima sviluppatore, poi anche publisher, che se non fosse esistito oggi non avremmo i DLC, i giochi episodici, esatto, l'accesso anticipato, il digital delivery, esatto. Sì, assolutamente sì, nel senso che abbiamo fatto l'escursione migliore che potevamo fare, però poi ci rendiamo conto che effettivamente dal punto di vista della narrazione tanti dei giochi che abbiamo raccontato, cioè che abbiamo descritto, li avremmo potuti raccontare, e probabilmente poi per qualcuno forse lo faremo anche, magari anche con episodi singoli, magari c'è qualcuno, insomma, di noi che vuole fare degli short o robe del genere, vediamo, perché poi Archeologia Videoludica questa stagione navigherà un po' così, alla pubblichiamo quello che abbiamo, perché insomma è giusto, insomma, che il programma venga ancora tenuto a galla, insomma, in vita, visto e considerato che molti utenti ancora ce lo richiedono quando facciamo troppo ritardo. A questo punto, dato che siamo stati fin troppo seri, è giusto, insomma, andare nell'angolo più amato dai bambini stupidi, che però questa volta non c'è la scena del fiorifero, perché siamo qui, non non è una cosa pre-registrata, quindi attaccata. Infatti, mi ha invitato apposta. Esatto, ho fatto così almeno staccato tranquillamente. L'unica differenza ci sarà è che ci sarà lo stacchetto che lancia il Gettos in Google. E dunque, riapriamo questa rubrica che è veramente amatissima, mi scrivono da tutto il mondo per dire ma quando ritorna Gittas in Google? Da tutto il morto. Da tutto il morto. Ma che è sto schifo? Questo schifo, che nelle note metteremo come primo link, è Duke Nukem dentro Minecraft. Figata! Geniale! Non lo so che cosa ci sta a fare in realtà, però sta dentro Minecraft. Vabbè, hanno cambiato praticamente la skin dei personaggi del giocatore di Minecraft. Così mi distruggi però la poesia. È bella l'animazione del calcio, dai. Sì, quello sì. Peccato che non può sparare. Non può sparare, chi può dirlo. Vabbè, comunque, in ogni caso, questa è una piccola simpatica chicchetta che vediamo. Comunque possiamo vedere Duke Nukem che prende a calci i porci. I porci pixelosi. Porci pixelosi, quindi è molto divertente. Se adesso poi apriamo anche il secondo, abbiamo Duke Nukem che incontra Shining. Attenzione. Cioè, come incontra Shining? Incontra Shining. Che cosa sarebbe successo se Shining invece di Kubrick l'avesse girato Duke Nukem? Succede che praticamente ci troviamo nel Overlook Hotel. No, figata. Esatto. E praticamente dobbiamo trovare, non so, i fantasmi, non ho ancora capito, però è una ricostruzione abbastanza maniacale dell'Overlook Hotel. Assolutamente, sì. Lo stai vedendo, Giuseppe, veramente notevole. Sì. Sono anche gli effetti sonori, attenzione. Adesso noi non li sentiamo. Questo perché è l'ufficio del manager, addirittura. Questo è dove stava Mr. Grady. Ti ricordi Mr. Grady? Sì. E insomma, viene fatto così: c'è la foto della. Prende lo shotgun, ovviamente c'era pure lo shotgun nell'ufficio del predio. E arriva gente con le asce che probabilmente vuole tagliarti. Ma non muore poi, tra l'altro. No, non muore. Arriva ombre con le asce, sono tutti neri. Sì. Sono extracomunitari praticamente. Vedi, invece, vedi? The Gala Room. Sì. Scusa, ma c'è peccato che non ci sarà la scena quella sia per lo sai che non lo so l'ascensore le trombe di Eustachio esce del sangue, no? Non ho avuto il coraggio di andare perché mi faceva troppa paura quindi non ho avuto, però c'è la scena di Red Drum che è bellissimo. Sto andando a cercare a vedere se c'è sta quella che non c'ha dice pazienza per. Perché sono stato 85 minuti di possiamo anche aspettarli niente, vabbè, dai, andiamo avanti. Non c'è, però c'è la scena della morte della vecchia dentro la vasca da bagno, che è bellissima, raccapricciante. E poi, visto che siamo quasi per andare a Natale, possiamo vedere una versione di Commander Keen natalizia. Che stai facendo, Pizzi? Questo non è Commander Keen. Che sta a fa? Clicca tu, vai. Che poi sta cosa natalizia. No, c'hai ragione tu, era quello. Sta cosa natalizia, vedete che non è che l'ha fatta solo in Commander Keen. Era tradizione rilasciare per Natale alcuni livelli a tale tema. Se vi ricordate, c'era pure Lemmings con i livelli natalizi, anche Jack Rabbit della Epic Games, che aveva pure i livelli natalizi. Insomma, era una tradizione quasi. Per poter magari anche ringraziare la stessa Software House per il successo del gioco, no? Vabbè, aspetta un secondo che tanto io lo carico. No, in realtà Pizzi aveva fatto una cosa giusta, perché c'è qualcun altro che invece ha deciso di mettere Duke Nukem contro gli xenomorfi, quindi fare una specie di alien isolation, che anche più appropriato tutto sommato con Duke Nukem. Sì, esatto. Sì. E quindi ha creato questa serie di livelli che sono praticamente labirinti, chiamiamoli labirinti, francamente non lo so. È un cimitero alieno, però, dove possiamo vedere che ci si muove dentro i soliti labirinti e non c'è nulla. Dove è l'alieno, scusa? Perché lì c'è la paura, perché tu l'alieno lo vedi all'ultimo minuto, lo vedi soltanto proprio gli ultimi minuti del film, quindi ti fai 50 minuti de mod e poi non arriva un cazzo. Però alla fine arriva l'alieno. No, vai avanti, portalo avanti. Non succede niente, come un film. C'era qualcosa quando è verde. Ah, no, no, aspetta, aspetta. Io l'ho messo perché questo fa cagare. Torna indietro. Ecco, fermati lì. Allora, a 4 minuti c'è questa scena dove c'è l'allarme. La gente, oh mio Dio, qua sta succedendo un casino. La gente che corre dietro come inseguiti dall'alieno brutto in due dimensioni. E poi a un certo punto salta un fisag che mi faccia sto Cristo senza un motivo. Ma attenzione perché è bellissima. Cioè, qualcosa di... E poi si chiude la porta. Cioè, una cosa che questo è stato messo come un mod brutto. Attenzione, cioè, quindi non come una bella opera. Cioè, questo ci ha perso tempo, poverino, a fare la ricostruzione. Però è una merda, diciamoci la verità. Però vedi, quelli zompano, è fatta proprio... Zompano un po' meglio di Alien Color Marines, quello è sicuro. Vabbè. C'era la versione natalizia di Commander Keen, non so se a questo punto la vogliamo vedere o meno, è già aperta nella seconda stringata. Che utilizza in realtà l'episodio 3 e mezzo, diciamo il cosiddetto episodio perduto di Commander Keen, che era Keen Dreams, che era Keen nel mondo dei sogni. Infatti, se guardi, c'ha una specie di pigiama con le pantofole, no? Mm-hmm. È una modazione di quel gioco. Sì, quindi... esatto. Sì, capito, sì. Ho capito. E quindi c'è la versione natalizia. Quindi l'hanno modificata poco alla fine, l'hanno messo a cappello. Vabbè, è una cosa particolare. Un bel kit in Google. Beh, c'è anche qualche cosa dopo. Comunque, c'è cosa? C'è Max Payne che incontra Silent Hill. Ah, attenzione, questo mi interessa. Perché potrebbe essere interessante. Tra l'altro, è fatto anche abbastanza bene, eh. Ma questo è il motore di Silent Hill 3, infatti c'è, io sto vedendo Heather, la protagonista di Silent Hill, no, però dentro il coso di Cody, no, oppure il motore proprio di, no, il motore di, giusto, di Max Payne, dove però hanno ricostruito il personaggio di Heather di Silent Hill. Potresti aver detto qualsiasi cosa, no. Giuseppe, non ho sentito un tubo, guarda. Ok. Mi spieghi, allora, spiegami questa cosa, perché, allora, questo qui... Questo è il motore, in realtà, di cosa? Di Max Payne, dove però come protagonista ci hanno messo il modello poligonale di Heather, la protagonista di Silent Hill 3. Esatto. E infatti qua si vede quando è che all'inizio proprio entri nella stanza dove c'è cosa, dove c'è il padre, tuo padre che è morto. Sì, sì. Ora rispondi, sto vedendo che sta rispondendo al telefono. Fa cadere le sedie, sì, cosa sì. Molto utile. No, l'ho messo perché era una cosa un po' particolare, poi salta, bene. Silent Hill non si salta, quindi questa è già una cosa molto agghiacciante. No, ma però poi più avanti vedo nel video che esce anche fuori casa e c'è proprio Silent Hill, sì, sì, sì. Con la nebbia, no, per strada. Sì, sì, sì. Poi diventa un action adventure, ovviamente. Sì, sì, solo che lei c'ha la pistola perché ovviamente il gioco è Max Payne, quindi ci li può far fuori. Però è interessante come ricostruzione. Sì, anche se la nebbia fa cagare. Vabbè, però o metti la nebbia oppure fai un fotogramma al minuto. Quindi anche questo è un sistema per ovviare a certe problematiche. Però è stato bello aver importato proprio il personaggio di Heather, perché sì. Questi che sbucano sotto il tubo di scappamento, bella vita, bella vita che fai, vivi sotto il tubo di scappamento. Se vedi che è rimasto incastrato, sì. Vabbè, quante volte gli spari? Vabbè, è anche molto, questa, insomma, link saggio. Sull'episodio e ve lo guardate poi, chiaramente. Poi vediamo se c'è qualche altra cosa e poi se no... Ah no, vabbè, nelle note però metteremo un video di mod... pezzenti di Max Payne, ovviamente pezzentissimi, cioè cose brutte, cose che praticamente avremmo voluto fare anche noi, che non avremmo neanche pensato di fare noi, ma tipo Max Payne al cimitero con gli zombie. Sì, anche, cioè. Ecco, vedi, una cosa che all'epoca, queste cose di 3D, però dei zombie non se ne... Si faceva pochi giochi sui zombie all'epoca. Sì, perché i zombie non erano abbastanza fighi. Cioè, lo zombie è pure, sei imputrefatto, le mie vedi qua, sei imputrefatto, stai fermo, c'è sta Max Payne alle due spalle, che balla, te via a cazzotti e tu muori. Cioè, è stupido lo zombie. Infatti non reggevano gli impatti. E qui sono altri mod, mi sembra. No, sempre questo dello zombie. Dove c'è veramente un tizio che lo commenta, dice: mamma mia, che bello schivare gli zombie, ma perché? Che però schivare uno zombie col bullet time? In effetti, ma magari vuoi che ti lancia un braccio o una tibia addosso. Sì, sì. No? Ce n'era anche uno stupendo invece, adesso se lo riesci a trovare, pizzico, magari non so se era qui o da qualche parte. dove ci stavano dei tizi che esplodevano. Che cos'è questo? Che roba è? Cioè, al minuto 5:50 c'è tipo Max Payne che mette roba nera. Ma che cos'è? Non so, se c'è roba. Se c'è una roba, invece qua uno, Max Payne vestito di biondo con una giacca. Ma come è vestito? Da gangsta, cioè, mamma mia. Cioè. Ma veramente, ah, Star Wars. No, Star beh, Wars, no, ecco, scusa, ma al 4 è vestito da coso, da quello di Half-Life, da... no? Sì, sì, è vero, c'è anche la versione Half-Life. Mamma col mia. Col motore rifatto, cioè, comunque c'è tanta monnezza con... Perché comunque questi giochi qui poi alla fine erano, sono anche oggi moddati, ma questi giochi di una volta erano utilizzati perché col loro motore grafico ci si potevano fare giochi che magari non erano usciti per una piattaforma, che ne so, potevi farci un Mario che non era mai uscito, una versione Mario Action Adventure che sparava i funghi, perché, insomma, ma non c'è Max Payne, la versione di Max Payne dentro Alpha Prime? No, purtroppo. Comunque, insomma, però sarebbe stato bello Max Payne nella Normandy. Ma penso che non ce lo fanno. No, bellissimo allo Sax Dick, cioè, a un certo punto non so se l'hai visto. No, non l'ho visto. C'è un livello con sto cartellone. Va bene, allora ragazzi, questo è il kit in Google di questa puntata, che è più divertente quando lo facciamo dentro al frigorifero. Ma al frigorifero, perché ti fa più freddo. Sai, tra l'altro Morgan mi ha detto, sarebbe bello che voi faceste sempre quella cosa lì, perché penso che vorrebbe che tu facessi solo quello. Probabile. Ma l'hai preso le selezioni del distruggitore. Selezioni del distruggitore. Va bene, a questo punto andiamo dritti dritti sparati su quel bar su Mille Island. Allora, diciamo subito un paio di cose. Intanto, grazie a un po' di donazioni che sono arrivate, non solo grazie a tutti quelli di IPN tipo Marpo e Giuseppe, insomma, che dimostrano sempre la loro generosità, ma anche alcune donazioni che sono arrivate, tant'è che probabilmente a fine anno poi noi faremo anche un resoconto dei soldi che IPN ha ricevuto come donazione e quello in cosa sono stati investiti, chiaramente, perché stiamo anche rifacendo anche un non po' di hardware. Non ci sono scappate le zoccole. Esatto, questo purtroppo non ci sono. No, stiamo rifacendo l'hardware per fare uno studio mobile che sia sempre ben coperto e si senta bene in qualsiasi condizione. Quindi già domani arriva con la pioggia e con il vento. Chi è che bussa sto convento? Già domani arriva qualche cosa che voi per domani sarà fra qualche, non so, insomma, è già passato domani, però probabilmente è già ieri. Detto questo, ringraziamo ancora una volta anche Giuseppe, ringraziamo anche la signorina, sì, che ha detto che il nostro sito è interessante e che aspetta, errori. No, questo lo voglio leggere. Voglio leggere perché dovete sapere che ci scrivono, tranquilli, ci scrivono delle persone di tanto in tanto per darci dei consigli. Giustamente, no? Oppure ci possono scrivere, esatto, e ci scrive questo. Possiamo dare il nome e il cognome? Brutto, no? Brutto, no. Magari solo il nome. Solo il nome, Penelope. Penelope, c'è un bel nome, però Penelope. Ma è italiana almeno? Sì, è scritto. No, e ci scrive, buongiorno. Senti come porsi a una persona, no? A un gruppo. Già che archeologia videoludica ti scrivi buongiorno, non hai capito un cazzo. No, cioè, però insomma, tipo, cioè, in generale, se tu vai a presentarti ad una persona che potrebbe addirittura essere uno che ti dà un lavoro, per dire, però è bello, e ti poni così. Navigando sul vostro sito archeologiavideoludica.it ho trovato alcuni errori ortografici. Allora, no, cioè, Pizzo avrebbe detto, che cazzo vuoi, che vuole questo? Era un piccolo. Però guarda, una che ci dice che ci sono degli errori, ci aiuta a correggersi. Che brava ascoltatrice. Spero che non vi dispiaccia se vi disegnalo. No, ma per carità, cioè, anche gentilissima, guarda. Di seguito vi mostro due errori che sono riuscito ad individuare nel contenuto del vostro sito. E poi ci prendete il link agli errori. Dopodiché ci scrive... La presenza online di un'azienda qua già definito azienda è una parola grossa, infatti è molto simile ad una vetrina incontrata dal cliente per la prima volta. Errori e sbagli ortografici possono influenzare negativamente l'opinione dei visitatori. Già mi sono rotto il cazzo, già mi sta da fastidio. Un sito web ben curato e privo di errori invece fa testimonianza di alta qualità ed affidabilità. Grazie, ma che vuoi? Aspetta, mi presento, mi permetto di presentarmi. Ancora, sono Penelope, ho 23 anni e sto studiando presso l'Università degli Studi di Firenze. Io ti ho pensato, questa magari ci vuole dare una mano, perché dice, vede, noi siamo impediti. No, lei è studente e quindi studente, serve una mano. Oppure ci diamo una mano a vicenda. Per finanziare i miei studi, ecco già... lavoro come correttrice, eseguendo quindi il controllo ortografico dei contenuti web. Sono certa che tale opportunità sarà di beneficio per entrambi. I vostri visitatori non troveranno più errori ortografici sul vostro sito e per me un piccolo introito sarebbe utile per gli studi. Naturalmente vi mando anche una fattura fiscale e dovrete saldare il conto, sottolineo dovrete, solo al termine del lavoro. Se volete conoscere tutti gli errori ortografici presenti sul vostro sito, rispondete direttamente a questa mail. Cordiali saluti. Io non lo so. Non ti preoccupare, Penelope. Non, ti vogliamo bene, se ti serve un PayPal di 10 euro, noi a che fare, ma non ci interessano i tuoi servizi. Ci teniamo i refusi, grazie. Ma poi c'erano questi errori, hai verificato? No, non mi interessa. Che ci frega? Tanto non li legge nessuno. Esatto. Ma non li legge nessuno, anche dai. Insomma. E quindi, insomma, finisce così. Allora, l'avventura con la nostra Penelope. Sul sito di archeologiavideoludica.it, appunto, appena stetti citato dalla nostra amica Penelope, ci sta Exit Planet Dust, che è il nome complicato, che non avendo ben capito di che cosa parlavamo, però lo ringrazio comunque, mi dice: qual è il post che non trovate più? Quello di Defender of the Ground? Ma come? Io lo trovo e ce lo linka. Ci linka l'episodio sul sito di Archeologia Videoludica. In realtà io dicevo il fatto che il post era sparito dalla pagina di Archeologia Videoludica. E ancora tutt'oggi sto cercando di capire che fine ha fatto. Ma ti ringrazio. Però poi continua, Marco. Ad ogni modo, complimenti per il nuovo corso. A me piacciono anche le chiacchiere inconcludenti, ma la sintesi è certamente un valore aggiunto ad un podcast che trovo tra i più interessanti e meglio congeniati. No, veramente c'è qualcuno che veramente ci fa. Una stella su YouTube. No, così. No, questo non è così. Andato, però comunque. Giunza, YouTube ormai. Ringraziamo il nostro Exit amico, Planet, Exit Dust, Planet Dust. Che magari un nome più semplice ci avrebbe fatto. Mario. Grazie, Mario. Grazie, Mario. È stato veramente, ma non perché noi abbiamo difficoltà, quindi no, capisci, sì, le persone che hai davanti. Dust, a me già mi è partito, capisci le persone che hai davanti quando gli dici il nome, cioè, mi chiamo Mario. Poi abbiamo selezionato un altro commento, abbiamo fatto anche noi la nostra selezione marrone, selezione dei commenti. Quindi c'è Gianluca Musumeci, ha lasciato un nuovo commento sul tuo post 1.5. questo ho letto proprio tutto come la notifica che è arrivata. Complimenti, ragazzi, da quando vi ho scoperto sto ascoltando un po' alla volta tutti i podcast in ordine sparso, che è la cosa migliore proprio. Sì, è sparso. Proprio. Ieri mi sono sentito questo episodio e devo dire che mi sembrava veramente di essere in mezzo a vecchi amici che parlavano di esperienze praticamente quasi identiche alle mie. Magari ogni tanto escono delle inesattezze. Non è stato, per esempio, certamente Dino Dini il primo programmatore a legare il proprio nome ad un videogioco. I primi a farlo sono stati quelli dell'Activision, con leggende quali David Crane o Gary Kitchen. Credo che si riferisse alla puntata sul calcio. Sì. Probabilmente. Sì. E quindi Santilio deve essere punito. Santilio, sempre le cazzate. Già bacchettato Santilio. Noi licenziamo Santilio. Ti facciamo sostituire da Penelope. Perché ci fai queste pause? Che no, perché ci ho pensato. Perché quasi quasi chiamiamo Penelope e la facciamo sostituire. Ah, ok. Può essere interessante. La voglia. Addirittura David Crane, nella confezione di Pitfall 2, si era fatto fotografare nelle vesti dell'alter ego digitale Pitfall Henry. Vabbè, è vero questo. Sì, vabbè, ma, sì. Ma lo dicemmo in una puntata vecchia, lo dicemmo questo. Mm-hmm. Perché lui magari non l'ha sentita, sparsa, lui l'ha sparsa. Per il resto, mi avete strappato grandi risate quando avete parlato del Bin Doni? O sui ricordi relativi al videogioco delle Tartarughe Ninja, che per uno della mia generazione del 72, mazza quanto è vecchio, è vecchio. Già è associabile all'età moderna. Quindi lui avendo sentito puntate sparse ha fatto un commento sparso, chissà che cosa. No, ma Bendeuni si può capire, però In ogni caso, ma complimenti. Allora, quando abbiamo parlato del gioco, del videogioco dei tartarughi, del campionato, no? Che Peppe Scaletta diceva che lui lo amava, e tu dicevi che faceva schifo. Fanno schifo le tartarughe ninja. Tu dimmi un prodotto di delle tartarughe ninja che poi il film dice che sta riscontrando favorevoli consensi. Le selezioni marroni proprio a gogo. In ogni caso, complimenti e tenete duro. Siete medici, questo tenete duro perché... perché ha capito che c'è un momento di difficoltà per questo programma e poi ci pensiamo, quasi quasi lo chiudiamo, però poi dopo ci piange il cuore e diciamo no, continuiamo. No, poi ci ho che andare a prendere birra sul surf di notte. Ora che Santilio è in un momento di difficoltà con la rete informatica, è fuori internet. Esatto, è fuori internet. E che Bertoni, a forza di far figli, fra un po' non avrà più neanche il tempo di parlare. Esce fuori casa. Esatto, invece, praticamente no? Il programma si regge sulle spalle di Peppe Saso. Praticamente, se non c'è lui, è la fine. Quindi, insomma, che ovviamente non è l'unico programma che segue della famiglia di PN. Esatto, quindi insomma capite bene che ci possono essere magari qualche volta qualche ritardo. Detto tant'è questo, tant'è che infatti a furia di fare podcast una sera sì e l'altra pure, come vedete pure la voce se ne va sparendo. Se ne va, è vero, però questa è stata una settimana intensa di podcast. Anche la prossima, sì. La prossima un po' sì, però un po' di meno settimana di più forse è stata, perché questa settimana sono stati lavorati ben 4 podcast addirittura. Quindi va bene, detto questo, Giuseppe Saso, ti ringraziamo, caro Peppe, ci vediamo sabato che andiamo al cinemino insieme, forse, perché bisogna vedere dove lo fanno. Se ci sta il film. Ma sì, vabbè, qualche, se lo andiamo in un posto andremo in un altro, insomma, vuoi dire. Ah, perché già l'hanno segato? No, perché dice che è esaurito, forse, non è disponibile, non so, bene, non so, vabbè, poi lo vediamo. Giuseppe Saso, ricordiamo L'Occhio del Beholder, che è il suo podcast che è il suo podcast sui videogiochi di ruolo. Peppe, se vuoi dare riferimenti. Sì, lo trovate sul sito www.occhiodelbeholder.it o poi basta come cercare, come fate anche per abbonarvi agli altri podcast di PN, tra cui anche Archeologia Videoludica, cercando Occhio del Beholder su iTunes. Perfetto. Poi vabbè, tutti i tuoi riferimenti, se cercate, basta scrivere Peppe Saso su Google, esce fuori di tutto, quindi lo trovate in ogni dove. Peppe Saso, non Sado. Peppe Sado potrebbe uscire qualsiasi cosa, quindi. Però se era d'estate è Peppe Sudo pure. Peppe Sudo. Vabbè, dai, queste battute simpaticissime. Marco Gualdi, che invece lo trovate addirittura ultimamente pure su Twitter. Ultimamente lo trovate su @gioconno, che è scritto con la J e la H finale. E la K e la H finale. Esatto. La K la dimentico sempre. Che è un personaggio che ha avuto più reincarnazioni del Dottor Who. Del Dottor Who, sì, assolutamente. Sì. Soprattutto dopo che siamo andati a vedere l'ultimo film di Terminator. Esatto. Perché ricordate che se sentite questa voce. Senti questa voce. siete della Resistenza. Cioè, non è che state sentendo la Resistenza, ma se mi sentite, siete dai, se ci sono cazzi. Cioè, io sono Giocorno. Siete Giocorno. E vabbè, poi altro niente, da dire. Quindi. Niente. Ah, vabbè. No, che poi non abbiamo dato diciamo neanche i riferimenti della trasmissione all'inizio, quindi vediamo alla fine. www.archeologiavideoludica.it è il nostro sito, e ovviamente .it e .com. Ricordate, il .net è andato a puttane un po' di tempo fa per colpa di un tizio che adesso sta spendendo i suoi soldi in medicine. Poi è archeologiavideoludica@gmail.com, è la nostra mail, la trovate chiaramente su Google Plus e su Facebook scrivendo Archeologia Videoludica, la nostra pagina, le nostre pagine, fate mi piace, insomma aderite, abbonatevi, mettete nelle cerchie, fate quello che dovete, @videoludica invece su Twitter. Adesso c'è un attimo un vuoto di potere su chi prenderà il sopravvento sul Twitter, perché c'è non è più il professor Jones, insomma, quindi l'abbiamo detto, e soprattutto su iTunes, come diceva anche giustamente Peppe prima, cercate Archeologia Videoludica, esatto. Abbonatevi e continuate a scaricare le vostre puntate, ma soprattutto se vi capita, insomma, fate anche qualche recensione, mettete qualche serina e soprattutto condividete i nostri podcast che ne hanno veramente tanto bisogno. Vabbè, quindi possiamo anche ci salutiamo, alla prossima, okay, e la prossima puntata che potrebbe essere, ci sono varie cose in mente, e sarà la puntata di Natale, quindi sa, sapete che noi facciamo, sapete che il Natale è tristezza, no, noi se Natale dobbiamo, noi siamo come il dottore, facciamo sempre lo speciale di Natale nel quale parleremo di qualcosa di nuovo, tipo i giochi che abbiamo giocato a Natale, tipo bambini, una cosa nuova, abbiamo già fatto quello. Ma tanto la gente non se ne avresti mai voluto, non se ne ascolta, non se ne ascolta, dai, o qualcosa del genere. Ciao, alla prossima, ciao, ciao.